Il regalo le piacerà sicuramente. L'ho comprato online e non ero certo di riceverlo in tempo. Per fortuna la spedizione è gestita da Amazon Shipping. Un gioco da ragazzi. Offri ai tuoi clienti l'esperienza di consegna a cui si affidano da anni. Amazon Shipping, il servizio di spedizione per tutti i canali di vendita online. Let's go! Let's go! Da Media World sono arrivati i Club Days. Entra nei club e scopri le offerte dedicate. Ad esempio, fino al 30 settembre, solo per te, TV Hisense 4K 55 pollici, tua a soli 379 euro. Approfittane in negozi online. Media World, let's go! Signore e signori, benvenuti ad un nuovo episodio di Morfeo. Il primo episodio di Morfeo che faccio da quando sono approdato su Runtime Radio. E di conseguenza, essendo quindi l'episodio di entrata per questo podcast nel nuovo network, o comunque nella nuova casa che ci ospita, avevo delle aspettative molto alte per questo episodio, perché c'erano tre ottimi ospiti che non vedevo l'ora di far interagire, un argomento che secondo me da sviscerato poteva offrire veramente veramente tanto. Ma purtroppo la sera della live, durante la sua messa in onda, qualcosa è andato storto. La linea non ha retto la, diciamo così, la comunicazione fra me e gli ospiti, e non potendo interagire fra di noi ho dovuto staccare tutto quanto. Questa cosa mi ha lasciato abbastanza nello sconforto, ma dopo qualche giorno abbiamo deciso di portare comunque a casa questo episodio, facendolo naturalmente nella maniera più normale, ossia bypassando completamente la live, registrando offline la nostra chiacchierata, la nostra lunghissima chiacchierata, e poi con la magia dell'editing cercare di unire tutto quanto come se fossimo effettivamente nella stessa stanza a parlare online con voi. Il risultato non è niente male, secondo me, di tutto rispetto. Ma naturalmente avrei preferito di gran lunga avere una live a disposizione, ma naturalmente non si può avere tutto, almeno non in questo momento, chiaramente. Ci saranno altre occasioni in cui fare live tutti insieme, in cui le cose saranno più tranquille. Per ora spero che vi piacerà questo nuovo episodio. Secondo me gli spunti offerti sono stati parecchi, sono stati molto molto interessanti. Abbiate pazienza se l'editing non è perfetto, ma ho dovuto, diciamo così, salvare il salvabile, perché oltre alla linea anche Audacity, il programma con cui registro e monto, ha deciso di dire la sua, e la sua era un chiaro no a, proprio alla mia persona. Ma detto questo, lasciamoci alle spalle tutti questi problemi di cui non me ne frega assolutamente niente e immergiamoci quindi in questo nuovo, fantastico episodio di Morfeo. Sigla. Signore e signori, bentornati a Morfeo. Ho sicuramente fatto un minimo di introduzione prima di questa registrazione che, come vi ho anticipato nel mattino allora in podcast, ma soprattutto nella fallimentare live che non avete mai sentito e che mai sentirete, questo podcast è diventato ormai, anzi è tornato ai fasti di un tempo, cioè un programma fatto offline. Ma questo sicuramente è un qualcosa in più, un qualcosa che secondo me può dare molto al podcast in sé, perché sicuramente io sono più tranquillo naturalmente, poi ho la possibilità di intervistare anche con la stessa spensieratezza gli ospiti che questa sera con me sviscereranno un'opera molto molto interessante, che potrebbe secondo me darci tanti spunti utili per questo periodo che stiamo vivendo. E quindi bando alle ciance, vado a presentarvi quindi uno per uno gli ospiti che ci accompagneranno in questa magica serata. Qui, assieme a me, ho il buon Giuseppe, l'uomo senza il quale non ci sarebbe stata questa live, effettivamente, perché ci ha fatto scoprire l'opera di cui parleremo stasera, ovvero La notte eterna del coniglio. Quindi, intanto, saluto Giuseppe. Ciao, Giuseppe. Ciao, Leo. Benvenuto qui. Tu non Grazie. Sei un podcaster. Io non so assolutamente niente dei podcast. Lui è il verginello di questa serata ed è giusto così svezzarlo per questa cosa. È molto, molto timido, è una persona assolutamente ignara di cosa lo aspetta, ma... io l'ho invitato non solo perché ovviamente lui ci ha fornito l'opera, ce l'ha fatta conoscere e soprattutto mi ha dato l'idea effettivamente per questa serata assieme. Mai errore fu più grave, esatto. Però l'ho voluto qui anche insomma per le sue doti umane, effettivamente. Ci provo. Oltre che ovviamente per le competenze che lui mi ha chiesto espressamente di non divulgare. Perché appunto è un tasto dolente per lui. Adesso mi tocca dirle. Però. Adesso ti tocca dirle, sì. Maledetto. No. Ti hai fatto una trappola. No, va bene. Allora, cosa vuoi fare da grande? Mettiamola così. Ah, questa è una domanda che non va fatta, perché in realtà non è vero. Che non so che cosa andrò a fare da grande, ma io sto studiando in questo momento antropologia culturale. E pertanto non mi voglio arrogare il diritto di dire sono un antropologo, ma ho un'apertura mentale che l'antropologia comunque mi fornisce, ma non starò qui stasera sicuramente a citare autori o testi e libri, argomentoni, perché non ho ancora ottenuto una laurea e non potrei mai permettermi. No, togliamo subito Giuseppe dall'imbarazzo, io l'ho voluto qui, ripeto, perché comunque lui di per sé di base mi ha sempre dimostrato di essere più competente in tanti ambiti, non solo in quello che studia, quindi l'ho voluto qui vicino a me. Ho la fortuna appunto di finalmente poterlo abbracciare. Ci stiamo abbracciando qui, e quindi in barba alla quarantena di Giuseppe in Giuseppe. Andiamo ad un ospite che avete già sentito nella scorsa puntata, e sto parlando del buon, ottimo, grandissimo Giuseppe Pugliese, autore del podcast Glitch. Ciao Giuseppe. Ciao Leo, buonasera a tutti. Sono molto felice di tornare qui su Morfeo, ma soprattutto di parlare di questa situazione, appunto della Notte Eterna, questo film, questo audiolibro, e fare il parallelismo, parlando di quarantena, appunto, fare il parallelismo di quello che abbiamo vissuto, di quello che stiamo vivendo e di quello che pare ci vogliono far vivere fino a data da destinarsi. E niente, mi hai già tolto un po' di castagne dal fuoco per spiegare che cosa andremo a fare, e quindi do a questo punto non ultimo, abbiamo un terzo ospite, un ospite che io volevo tantissimo e finalmente ce l'abbiamo. Questo all'inizio doveva essere un ospite che viene, non viene, così, perché è un po' così, un po' svolazzino, ma in realtà lui alla fine si è presentato e ci ha salvato dalla sua assenza, il grandissimo Lobby Frontali, Francesco Di Muro. Ciao Francesco. Vi ho salvato dalla mia assenza, è ancora troppo presto per saperlo, quindi... La serata sarà lunga, capiremo. Eterna. Sarà eterna, esatto. Francesco è uno psicologo e esperto di scienze cognitive, non ha un podcast e la cosa ci ha sempre addolorato di questa cosa, ma lui è ospite di tante volte di programmi di Runtime, perché per qualsiasi argomento tu puoi avere il Jolly Lobby Frontali, che praticamente riesce a occuparti qualsiasi ambito e risultare sempre un ottimo ospite. E quindi grazie anche di essere venuto qui, di essere intervenuto e di esserti ciucciato l'audiolibro assieme a tutti noi, e spero davvero che tu condividerai tutte le tue senza filtri, tutte le tue così, le tue opinioni su quest'opera. Ci proverò. Comunque, da dove è uscito fuori sto fatto che io in qualsiasi cosa io dico la mia ed è giusto? Non è vero, io non so niente, so solo poche cose, e quelle poche cose me le tengo strette, sì, no, cioè, visto che io combatto con, e stiamo combattendo tuttora con i tuttologi, di gente che è passata da pochi giorni dall'essere degli esperti virologi a degli esperti allenatori di calcio, quindi io, la mia è una lotta continua contro sta gente che crede di saper tutto per aver letto una mezza cosa, perché in realtà è ignorante. Effetto Dunning-Kruger per chi vuole cercarlo, oppure per chi già lo conosce. Vabbè, Ho detto quindi una guerra infinita contro l'italiano medio. Non è solo l'italiano, caro, non è solo l'italiano. Non lo so, io parlo per il bacino di utenza che ho. Il bacino di utenza che ho anche io, perché abbiamo a che fare con esseri umani, purtroppo sono difettati sul nascere, ma sono belli così, proprio perché sono difettati sul nascere. Ma Francesco, domandina, sul Dunning-Kruger, Socrate diceva io so di non sapere, il Dunning-Kruger può essere equiparato come io non so di non sapere? No, perché non lo sa di non sapere, è più invece io so di sapere. Perché quello che... Anche se in realtà... devo andare un pochino ad aggiornare perché alcune ricerchine hanno visto... Vabbè, comunque non è così netto come fenomeno, eccetera, eccetera. Però vi farò sapere. Non è l'oggetto di questa serata, quindi... Anzi, parleremo di altro e... Vabbè. Visto che l'hai organizzata tutta tu, caro Leo, forse è il momento di introdurla. Non so cosa volevi fare a questo punto. Guarda, io mi sono un attimo perso in questo fritto misto iniziale che era bellissimo e vi avrei lasciato parlare per ore, ma giustamente ci riporti alla realtà, caro Lobby, e questo è parte sicuramente della tua professione, quello di appunto riportarci con i piedi per terra. Rompere il cazzo, va bene. Dove andà così, fratelli? Ho preso il muro, fratelli. E basta, ragazzi, col fratellino. Questa dai, il vostro ritorno sempre, no. Ritorno. Dunque, iniziamo, signori. La notte eterna del coniglio. Facciamo una mini, diciamo così, presentazione dell'opera. È un libro di Giacomo Gardumi, uscito nel 2003, e che noi abbiamo recuperato nella versione audiolibro, che, come ci diceva anche il buon Giuseppe, nell'anteprima, insomma, che voi non ascolterete, cari ascoltatori, fa parte di quella tipologia di audiolibri che adesso, visto che ce l'ha spiegata il buon Giuseppe, lascerei a lui la parola di spiegarci, allora, che tipo di audiolibro è. Fondamentalmente gli audiolibri, adesso io non posso dire che esistono solo queste due categorie, ma esistono due grandissime categorie di audiolibri. Uno in cui c'è una singola persona che legge il libro puro e spurio com'è, dove possiamo assolutamente andare a vedere tutte le capacità scritte, tutto lo stile letterario dell'autore, mentre c'è un'altra categoria che è un po' più sceneggiato, dove ci sono diverse voci che ti fanno capire quando cambi personaggio, dove ci sono effetti sonori che ovviamente in un libro non troveresti mai, dove ci sono tagli di scena utilizzando degli effetti sonori, e pertanto questo tipo di audiolibro sceneggiato è una categoria a parte. Quello che noi abbiamo recuperato, anzi quello che io ho recuperato tramite il mio abbonamento al sistema bibliotecario di Milano, che ti permette di acquisire degli audiolibri in maniera totalmente legale, ho ottenuto questo audiolibro, l'ho ascoltato, l'ho ritenuto interessante e l'ho passato a Leo. Anzi, l'abbiamo ascoltato casualmente di ritorno dal Modena Play. Ritorno al Modena Play 2017, se non sbaglio. Non mi ricordo, ma fu un bel viaggio comunque. 18. E fu un bel viaggio perché eravamo stanchi, cotti dal Modena Play, ci siamo ascoltati questo audiolibro e, arrivati sotto casa di Leo, abbiamo detto non possiamo andare a dormire, dobbiamo assolutamente finire di ascoltarlo, e siamo rimasti in macchina a finire di ascoltarlo, perché ci ha stupiti. In quanto è un giallo che si ambienta, faccio un po' un intro della trama. Allora, questo magari lo faccio io. Comunque, la storia della notte eterna del coniglio comincia praticamente in un momento assolutamente tranquillo. C'è una famigliola praticamente che si riunisce per il pranzo di Pasqua. Questa storia è ambientata in America, a San Francisco, se non erro, insomma. C'è questa famiglia che si riunisce per il pranzo di Pasqua e succede però che un evento inaspettato praticamente coglie la famiglia, naturalmente. Ma visto che stiamo facendo un'introduzione, io mi permetterei di aggiungere alcuni pezzi che poi andrò ad aggiungere in post-produzione. Adesso noi ce li sentiamo qui durante questa conversazione. In cui, allora, questo primo pezzo che vi faccio sentire parla praticamente della situazione che stanno vivendo, praticamente che sta vivendo questa sorta di ucronia che questa storia racconta. L'ucronia che cos'è? Francesco, tu lo sai che cos'è un'ucronia? Faccio difficoltà a spiegarla. Diciamo, si differenzia dall'utopia e dalla distopia perché... Boh, no, davvero, non... Vai tu. Vabbè. Taglia sto pezzo, magari. L'Ucronia è sostanzialmente un racconto immaginario, sempre nel nostro mondo, però immaginandosi una sorta di presente, con un presente in cui nel passato, nell'immediato passato, c'è stato un evento che ha stravolto completamente gli eventi. Un esempio, un grande esempio di Ucronia è 1984 è una distopia, non è quello. Un'ucronia, quale potrebbe essere un'ucronia? Watchmen. No, Watchmen è un'ucronia, effettivamente. The Man in High Castle. The Man in High Castle è un'ucronia, effettivamente, perché lì si immagina effettivamente che i nazisti abbiano vinto la guerra e quindi ci si immagina appunto il mondo governato effettivamente dal regime nazista. Quindi sì, un'ucronia è semplicemente un raccontare un presente con qualcosa che nel passato lo ha stravolto completamente. In questa ucronia praticamente si racconta un'ipotetica situazione molto tesa fra la Cina e gli Stati Uniti, quindi queste superpotenze che per alcuni motivi sono appunto arrivate ai ferri corti. Esatto, adesso ci sentiamo questo contributo tutti insieme per introdurre meglio, diciamo, il grande universo narrativo della Notte Eterna del Coniglio. Martedì 6 aprile 2010. Nell'aula del Consiglio Generale delle Nazioni Unite venne votata all'unanimità l'estromissione della Cina dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Era l'atto preliminare necessario per approvare le risoluzioni numero 1434 e 1435. La risoluzione numero 1434 conteneva un durissimo attacco alla Cina per la politica di riarmo nucleare messa in atto segretamente dal governo di Pechino. La risoluzione 1435 riguardava invece la situazione venutasi a creare a Singapore dopo il golpe armato del 23 gennaio guidato dall'ex primo ministro Chiang Kai-shek, un uomo di Pechino. Meno di un'ora dopo, la Cina annunciò che avrebbe ritirato a tempo indefinito i suoi delegati da tutti gli organismi di rappresentanza delle Nazioni Unite. Analoghe decisioni furono annunciate in serata da altri 13 paesi, tutti facenti parte dei due principali alleati internazionali della Cina: il blocco islamico di resistenza, guidato da Iran e Arabia Saudita, e la Federazione degli Stati dell'Asia Centrale. Allora, giustamente gli ospiti non hanno ascoltato il contributo perché l'ho fatto un po' all'ultimo. Adesso vado un attimo a fare un mega riassuntone. Praticamente sì, si conferma che per alcune vicissitudini interne al governo cinese praticamente ci sono state alcune, alcune tensioni proprio dentro la Cina stessa e fino ad un colpo di Stato, qualcosa che appunto, come al solito, l'America non è riuscita a tenersi nei pantaloni, perché quando vede una situazione così molto tesa in un paese straniero non può fare altro che cercare di importare tanta democrazia. Giustamente Giuseppe, mentre ascoltavamo questa cosa, mi ha fatto notare che sì, il libro è del 2003, ma si parla del 2010, quindi effettivamente questo libro non è un'ucronia, mi correggo subito, ma è una distopia effettivamente. Ok, partiamo da questa situazione. Iniziamo proprio raccontando l'antefatto, cioè la famigliola praticamente si riunisce in questa tavola imbandita. C'è praticamente la protagonista, quella che, da cui sentiremo tutta, dalla sua voce sentiremo tutto il racconto, e naturalmente oltre alle voci degli altri personaggi, naturalmente, ma lei farà da narratrice della storia dal suo punto di vista, ovviamente. E praticamente lei assieme a suo marito vanno a casa di suo padre, del padre di questa signorina, non prima di aver preso il padre dello sposo. E in questo pranzo si uniscono altri amici e cominciano appunto a discutere di questa situazione internazionale. Si scopre, diciamo, subito che tipo di persone ci sono a questo tavolo. C'è appunto la ragazza, ossia Jane, che è molto preoccupata per questa situazione internazionale. Poi c'è Norman, il padre di suo marito Mark. No, scusate, il padre di Jane, appunto, che è un uomo molto molto americano, proprio nel senso peggiore, molto, diciamo così, amante delle armi, delle soluzioni, diciamo così, molto... Anche atteggiamenti piuttosto razzisti. Anche atteggiamenti piuttosto razzisti, lo sentiremo, cioè lo si sente appunto in una discussione con la figlia. E appunto ci sono questi, diciamo, questi due grandi, così, modi di pensare. Anche perché di questa proprio cosa. Lei dice: io e mio padre siamo stati gli ultimi casi della California di... come che dice cavolo le parole di confronto generazionale, di esatto, scontro generazionale. Di scontro generazionale, esatto. Dunque, Giuseppe, partiamo da te. E quando dico Giuseppe Pugliese, invece il Peppe. Ok, che ho... a posto. Definiamo questa cosa. Esatto, il bravo, Peppe. Anche perché. Ok, io sarò Peppe Giuseppe, ok? A posto, va benissimo. Perfetto, allora, caro Giuseppe, siamo a questa tavola imbandita e vediamo appunto questo scontro generazionale che proprio arriva proprio ad un momento assurdo. Tu però, se non ricordo male, non hai ascoltato l'audiolibro, mai visto il film di cui parleremo più avanti, no? Sì, l'audiolibro non l'ho seguito per mancanza di tempo. Gli audio che ti ho mandato li hai sentiti? Neanche, perfetto. Sono a digiuno. Ci siamo, siamo in questa tavola imbandita. Tu ti sei mai ritrovato? Adesso voglio farvi proprio una domanda a tutti e quattro. A tutti e quattro, compreso me stesso, però. Partiamo da te, Giuseppe. Tu ti sei mai ritrovato, tu da tecnico, no? Ti sei mai ritrovato a scontrarti con, uso un termine tecnico, contro dei boomer per cose di questo tipo? Cioè di cose... Vado un attimo a definirle. Praticamente ti sei mai scontrato con un modo di pensare vecchio, detto da dei vecchi, senza considerare il fatto che loro non dovranno vivere questo mondo ancora per troppo tempo, mentre tu magari ancora sì? Allora, diciamo che questa situazione, credo che da quando sono nato mi sono trovato purtroppo, o per fortuna, poi dipende dai casi, a vivere situazioni del genere. Ma credo che chiunque, soprattutto della nostra generazione, soprattutto nel periodo odierno, si sia trovato a uno scontro generazionale molto molto forte fra noi e la categoria che diciamo attualmente ha 50-60 anni, quindi diciamo quelli che hanno vissuto in maniera diciamo prepotente tutto quello che è stato il capitalismo, quindi gli anni 60 e gli anni 70 e gli anni 80. Per quanto riguarda da tecnico, sia a livello lavorativo che a livello proprio mentale, ogni giorno, per quanto riguarda soprattutto la mia famiglia, ma anche persone, diciamo, con cui ho avuto a che fare. Sì, perché purtroppo... soprattutto, cioè, io parlo per esperienza, quindi circoscrivo tutto alla mia bolla e quindi parlerò soprattutto della situazione in Italia, della situazione nel sud Italia, nella situazione della Campania, che ancora di più sottolinea degli aspetti diciamo poco simpatici, perché soprattutto qui c'è di base, radicata soprattutto in quella generazione là, l'idea che loro in pratica, almeno da quello che ho visto, loro non avevano ancora i loro padri quando diciamo sono arrivati alla soglia dei 30-40 anni, che avevano ancora le mani in pasta, facevano il grosso di quello che c'era da fare in famiglia, e loro diciamo sono subentrati tardi, e questa cosa la stanno scontando secondo me in maniera sbagliata sulle generazioni successive, non rendendo accessibile praticamente nulla. E lo vedo tantissimo appunto in giro, ma anche a livello lavorativo, perché ti faccio un esempio stupido. Quando tu, per quanto riguarda il mio lavoro, e spesso io ho a che fare con persone molto più grandi di me, cerco di spiegargli un poco come funziona internet, ma soprattutto l'internet di oggi, che è ben diversa da quella che conoscono loro e degli anni 90, che in pratica era una versione primordiale di quello che è internet oggi, loro spesso soffrono di eccessi. Mi spiego meglio: non riuscendo a capire determinati argomenti, anche se io faccio il possibile per rendergli semplici, mi vanno a peccare o di un eccesso o di un altro, nel senso che o diciamo vanno nell'eccesso estremistico, quindi partono dal concetto che con le multinazionali di oggi non ci si arriverà mai, moriremo tutti, saremo tutti quanti schiavi, molto fatalista, insomma, bravissimo, decadono in quel ragionamento da 1984 di Orwell, che da un certo punto di vista io appoggio anche, ma non proprio come lo detengono loro, proprio perché non capiscono il mezzo e pensano che il computer sia o la palla magica o la spada laser di Luke Skywalker, cioè nel senso degli oggetti che al giorno d'oggi, anche se siamo nel 2020, sono pura magia. Oppure ti scadono nell'altro estremo, ovviamente con tutte le scale di grigio, che è il conservazionismo più sfrenato, nel senso che dicono: io questo strumento non lo concepisco, non lo voglio concepire, ne voglio rimanere bravissimo, ne voglio rimanere totalmente al di fuori, e rimanendone totalmente al di fuori io posso proseguire tranquillamente la mia vita, perché non è un qualcosa di fondamentale per me. E secondo me fare questo ragionamento con la tecnologia 30 anni fa sembrava, secondo me, quasi pazzia. Adesso è diventata, non lo so, sono, la rivoluzione. Diventate frasi assurde. Sono diventate frasi assurde perché sono le stesse identiche persone che non pensano alla tecnologia come internet e come il computer, però non partono dal concetto che al giorno d'oggi lo smartphone è tecnologia, il pacemaker che utilizzano loro per cercare di sopravvivere è tecnologia, la farmacologia di oggi è principalmente tecnologia, perché chi non è in ambito medico e farmaceutico non sa, ma al giorno d'oggi i farmaci non vengono più sperimentati sulle cavie, oppure l'utilizzo di cavie da laboratorio è stato ridotto ai minimi termini, e il grosso delle molecole, visto che ci sono di solito tre stadi per l'evoluzione di un farmaco, per la messa in produzione massiccia di un farmaco, almeno i primi due stadi vengono fatti totalmente al computer e totalmente simulazione, certo. Bravissimo, totalmente con quella che viene chiamata intelligenza artificiale. Quindi il mondo che loro credono di aver di fronte solo perché non hanno matching, non sono collegati, che credono che sia rimasto bene o male lo stesso negli ultimi 40 anni, 50 anni, quando gli vai a schiaffare la realtà in faccia, ti esplodono in qualche maniera, non riuscendo a contabilizzare, credo che sia il termine giusto, a rendersi conto, proprio a contabilizzare l'enorme balzo in avanti che si è fatto in solo 30 anni. Ok, passiamo da tecnico a tecnico a questo punto. Francesco, tu ti sei mai scontrato, ti rifaccio la domanda che ho fatto anche poc'anzi, ti sei mai scontrato in maniera più generazionale nel tuo lavoro, nella tua bolla, insomma, professionale, sanitaria e non, con un modo di fare molto più, diciamo così, antiquato, e doverti scontrare con, appunto, proprio con questo problema del fatto che una persona non ha voglia di imparare, una persona adulta che ha usato dei metodi antiquati per tutta la vita non ha voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, perché appunto quasi non gli entra in testa che non valga la pena continuare a sperimentare cose nuove, perché ormai, diciamo, è alla fine della sua carriera, cioè prendersi il rischio di sbagliare qualcosa per imparare qualcosa di nuovo, adesso che la tua mente non è più così elastica, potrebbe portare a delle conseguenze, e quindi ti rimani ancorato a dei modi di fare antiquati. Tu che esperienze hai avuto in questo senso? Vi dico che io innanzitutto che io lavoro soprattutto con gli anziani, quindi diciamo che queste cose sono quasi all'ordine del giorno, però io da un certo punto di vista giustifico di più un atteggiamento del genere, semplicemente perché tra i processi cognitivi che decadono con l'età sono proprio quello della flessibilità e della capacità, quindi di la plasticità, cioè la capacità di creare nuove connessioni e quindi di immagazzinare nuove informazioni, nuovo modo, bene o male c'è, però comunque viene ridotta, e però rimane inalterata quelle che sono più le competenze che cosiddette cristallizzate, cioè informazioni accumulate col tempo, oppure la cosiddetta, in modo giusto per dire, in modo molto colloquiale, la saggezza. Quindi io vedendo loro che, diciamo, che magari si oppongono, oppure io proprio ultimamente un progetto l'ho dovuto, per il Covid l'ho dovuto sospendere, e poi l'ho ripreso proprio nelle ultime settimane, cercando per quanto possibile, era un laboratorio vero di gruppo di potenziamento cognitivo con un gruppo di anziani. Io li ho chiamati uno a uno dicendo: tu quanto sei sgaggio, sgaggio è un termine reggiano, quanto sei pratico con le tecnologie digitali, con queste cose. E praticamente 4-5 di loro me li sono riusciti a portare online e facciano praticamente quel laboratorio, quel percorso online. E gli altri, quelli un pochino meno sgaggi, diciamo, da questo punto di vista, li ho lasciati, li vedo 2-3 giorni dopo in presenza in un centro qui vicino, praticamente. E a volte è capitato, soprattutto io la settimana prima con quelli là online, abbiamo detto facciamo una prova tutti insieme, così vediamo di risolvere i problemi. Alcuni ci sono riusciti subito perché già erano un pochino più, già avevano un pochino più familiari con le sedute online, altri un po' meno, però comunque comunque cioè, più che altro si è sentita la differenza con quelli che hanno detto no, assolutamente no, non ce la faccio, non ci sono neanche mettere mano. E spesso veramente li vedi che hanno comunque dei cellulari, non smartphone. Io ripeto, più che un'opposizione, magari può essere un'opposizione per un qualcosa che può darsi che comunque non capiscono, ma anche perché hanno difficoltà, cioè non hanno più comunque un tipo di pensiero fluido, malleabile che possono cioè che possono immagazzinare, comunque che possono includere di nuovo, di poter imparare delle cose completamente diverse, mentre per anni, paradossalmente, alla forza dell'abitudine, perché il nostro cervello comunque va avanti cerca di risparmiare energia dove può, quindi quando delle cose sono abitudinarie, consolidate, difficile poi cambiare quelle abitudini. Si devono implementare delle nuove abitudini, che però per diventare abitudine ci vuole notevole sforzo. Quindi qualcosa che per noi ora è diventato essenziale, per loro giustamente non lo è. È difficile, cioè difficilmente possono oppure cercano di esplorare questi nuovi ambiti, perché comunque anche perché soprattutto le nuove tecnologie digitali sono qualcosa di molto simbolico rispetto a molto astratto rispetto a qualcosa rispetto paradossalmente a prendi una zappa, prendi una vanga oppure metti sulla macchina da scrivere. È un qualcosa che comunque fa paura spesso. C'è stata una signora che ho cercato fino all'ultimo di portarlo online, ma non ci sono riusciti, diceva che lei qualsiasi cosa non riesce, però paradossalmente con lo smartphone riesce. Questo è stato comunque un'evoluzione, il fatto della tecnologia touch, essendo qualcosa di più assimilabile a qualcosa di più naturale. Cioè una cosa è premere dei tasti, muovere un mouse, muovere un cursore, una cosa è direttamente toccare, fare scrolling. Quindi in realtà molti anziani, molti over 50-60, la transizione allo smartphone l'hanno fatto facilmente. Anzi, so che ci sono dei vecchi che ci giocano addirittura, cioè non dei giochi particolarmente complessi, però comunque il passettino oltre al WhatsApp ci sono riusciti. Poi comunque oppure al navigare, a cercare due ricette su internet. Alla signora che ti cerca le ricette su internet la conosco, cioè come c'è anche quello lì che si oppone totalmente. Però io quello che dico sempre, non giudichiamoli però con riserva, perché se mai ci arriveremo alla loro età ci sarà quella tecnologia, quella cosa che noi faticheremo ad assimilare e bestemmieremo il fatto che ormai funzionerà tutto in quel modo, perché alcune cose non che sperimentare questo problema, insomma. Hai voglia, sì. Poi ciò non cambia che comunque tutto questo può essere compensato da un'attitudine che può essere sia acquisita oppure che già in gioventù si poteva avere alla curiosità, allo sperimentare, a non avere paura. E tutto questo deriva anche da un senso di autoefficacia, di essere consapevole, di essere avere fiducia nelle proprie competenze specifiche, magari non avere fiducia in altre, in cui giustamente non ci si è mai davvero sperimentati. È difficile il concetto di autoefficacia rispetto a quello di autostima. Autostima è più generico, più un alone generale su tutto. Cioè se hai bassa autostima, hai bassa autostima bene o male su tutto. Invece l'autoefficace è più specifico su determinate caratteristiche, determinate competenze, sia sociali, emotive che prettamente tecniche. Quindi spesso e volentieri, sentendosi comunque vecchi, vedendo comunque quelli che sono dei fallimenti quotidiani sia sul piano fisico che sul piano mentale, hanno spesso l'errata percezione per cui oramai è tutto destinato a decadere, quindi che mi ci metto a fare, a imparare qualcosa di nuovo, tanto non ci riuscirò, può darsi che non mi servirà neanche. A volte quelli là magari un pochino più estremi, più conservatori, ci mettono anche al di sopra di questo alla narrazione, per cui è inutile, noi giovani non serviamo a niente, queste cose qua, ai miei tempi queste cose qua, quello più una narrazione che si fanno per, cioè è più facile a dire che era meglio ai miei tempi, sta roba è inutile, non serve a niente, piuttosto che ammettere magari che a se stessi che non, certo, non c'è voglia, non c'è curiosità, non si capisce, è qualcosa di cui si ha spesso paura. Tranne, vi dico un aneddoto, comunque, quando spesso comunque sono diffusi, io personalmente non li ho fatti, però un qualcosa di simile, più sull'aspetto tecnico, magari più sull'aspetto della motivazione, sull'autoefficacia, ci sono comunque dei laboratori di alfabetizzazione digitale per gli anziani. Però la cosa bella è che il giorno 1 in cui iniziano a imparare l'internet, loro scoprono il porno, sia maschi che femmine, ed è finita. Ma proprio il giorno successivo, no, è finita là. Cioè, la prima cosa che scoprono, appena scoprono il concetto di internet, che si può andare su internet, porno. Porno, se le scambiano tra i loro maschi e femmine, cioè sono tremendi, soprattutto in questo paese, internet, ragazzi, quindi... Il problema è la chiesa cattolica, che purtroppo bisogna anche capirli questi poveracci, cioè loro arrivano da degli anni che io, quando mi arrabbio, dico e impreco certe volte, vorrei aver vissuto nel passato, proprio perché c'era l'idea, almeno io vedevo che era tutto un pochino più semplice, soprattutto lato economico, soprattutto lato lavorativo. Però devo dirmi la verità, che loro non è che stavano messi granché bene a livello proprio di mentalità, c'era un bigottismo e un come posso dire, è un medioevo mentale, soprattutto in Italia, che era mostruoso, soprattutto per quanto riguarda appunto il porno, cioè qualunque cosa riguardasse la sessualità. Loro, mamma mia, cioè ancora oggi vedi vecchiette che appena subito partono a tutta birra nel negazionismo più assoluto. Però quello che mi chiedo io, i figli e gli fatti, quindi tecnicamente dovresti sapere come funziona, perché scandalizzarsi? A questo punto vorrei prendere questa tua domanda e rigirarla a Peppe, e che ci almeno dà anche la sua risposta a questa grande, domanda. Non c'è una grande risposta a questa grande domanda sul porno. No, c'è. Riprendi anche la domanda da cui siamo partiti, perché poi siamo partiti a questa divagazione incredibile. A me sul discorso boomer, incapacità di adattamento alle nuove tecnologie o comunque alla novità, mi viene solamente da fare un parallelismo sociale sul fatto che, oddio, non mi ricordo neanche un nome, quindi come ho detto all'inizio non ci terrò neanche un nome, ma c'è una teoria antropologica che studia le culture, che dove fondamentalmente si parte da una società che dove fondamentalmente l'uomo, l'individuo singolo, ha il completo controllo del processo produttivo, che significa che lui parte dalla materia prima e sa assolutamente dove va a finire questo lavoro, procedimento di materia prima. Invece siamo arrivati oggi in una società che è iper specializzata, dove fondamentalmente il livello culturale e tecnologico è talmente avanzato dove il singolo fa una piccolissima parte iper specializzata di un processo produttivo molto vasto, dove pertanto non vedrà il risultato finale del suo lavoro. E questa cosa qui mi fa pensare fondamentalmente a una cosa, in realtà un ragionamento che ho fatto qualche giorno fa sul concetto dell'ambiente. Il fatto di non buttare la cartaccia per terra, perché dovrebbe causare un disastro climatico? Perché? Perché l'uomo, l'italiano medio, quello che abbiamo citato all'inizio, oppure l'anziano, oppure comunque la persona che non fa ragionamenti profondi sulla propria esistenza in questo mondo, praticamente non riesce a vedere cioè ha quell'ottica della società primitiva, ovvero il fatto che lui tutto quello che ha sotto controllo è la cartaccia del carattere terra. E lui dice: che cavolo c'entra la cartaccia per terra con il problema climatico? Invece una persona che invece ha una cultura estremamente avanzata, che magari ha fatto studi approfonditi e dice e riesce a razionalizzare un processo che in realtà non è così diretto, come diceva appunto Francesco, il fatto di avere completa competenza in quello che ho di fronte, praticamente a volte capita che l'uomo, l'individuo, non riesce a razionalizzare che lui, che ci sono dei sistemi più ampli che lui non può concepire, e pertanto da un sistema più semplice siamo passati a un sistema più complesso che non riusciamo a controllare. Niente, questo è il mio commento. Poi, parlando del porno, possiamo parlare tutto quello che vogliamo, però non andremo avanti sul discorso del porno. Io direi di continuare a questo punto la narrazione. È affascinantissimo, però no. Sì, assolutamente. Però a questo punto io continuerei col racconto, perché giustamente avete toccato in maniera molto molto pornografica, letteralmente, il tema della tecnologia. L'abbiamo appoggiato. Esatto, già l'avete appoggiato, proprio il tema della tecnologia, che è proprio qualcosa su cui adesso ci sbatteremo la testa in questa seconda parte della nostra narrazione della Notte Eterna del Coniglio. Perché? Che cosa sta succedendo a questo punto? La famiglia, ok, dopo questa discussione durante il pranzo di Pasqua, però passata, diciamo, la fase in cui commentano tutti assieme la notizia del giorno come un social network... ante litteram, praticamente la famiglia comunque continua il pranzo in maniera tranquilla. Che succede però poi? Veniamo a conoscenza, noi spettatori della storia, noi ascoltatori, di un piano praticamente, diciamo così, architettato dal padre di Jane, della protagonista, insomma, da Norman. Perché? Norman è un prepper. Chi sono i prepper? I prepper sono queste persone, soprattutto l'America ne abbonda di queste persone, che sono appassionate di sopravvivenza, che vogliono essere pronte a qualsiasi catastrofe naturale. E in questo film, in questa opera, in questo libro, audiolibro, insomma, questa storia, il prepper Norman praticamente ha pensato all'eventualità che potrebbe scoppiare una bomba atomica, potrebbe esserci qualsiasi cosa che potrebbe minacciare la salute, comunque il quieto vivere dell'America, di cui lui è un americano medio, quindi giustamente è un fan molto simpatizzante della propria nazione. Quindi cosa fa? Decide di comprare dei rifugi atomici, però di rifugi antiatomici. La cosa è, siccome comprarne di più porta un vantaggioso sconto per l'acquirente, allora propone questo affare anche, per esempio, al suo consuocero, quindi al padre del marito di sua figlia, quindi al padre di Mark, cioè Eric, che è una persona molto, diciamo così, molto, molto più tranquilla, è una persona che ama la botanica, ama la natura, però è anche molto, molto fatalista, molto così, molto triste per questa situazione, perché si sente addosso tutto il peso di questo mondo, e anzi forse è proprio l'emblema di questo anziano, che secondo me si è anche molto abbandonato alla rendevolezza, insomma, di questa vita che potrebbe finire da un momento all'altro. Insomma, lui si rivede molto nelle piantine che cura, che sono molto fragili, molto, giustamente, molto deboli rispetto a questo mondo grande e cattivo. E che succede? A un certo punto succede proprio l'inevitabile, perché il sabato successivo al pranzo di Pasqua la famiglia si riunisce di nuovo, decide così, visto che c'erano delle tensioni interne alla famiglia, decidono tutti insieme di riprovare comunque a ricostruire un rapporto familiare più sano, si riuniscono di nuovo a casa di Norman durante questo pranzo, alla radio ascoltano appunto l'avvertimento dello speaker di nascondersi, di trovare un luogo sicuro, perché appunto c'è un attacco nucleare in corso. Poco tempo hanno a disposizione i protagonisti per raggiungere i rifugi antiatomici e si nascondono lì dentro. Si trattava di un programma di autodifesa nazionale, consistente nel farsi scavare nel giardino di casa un mini rifugio antiatomico monofamiliare capace di garantire la sopravvivenza degli occupanti per almeno un anno dopo un'ipotetica guerra nucleare. Tutti i rifugi sarebbero rimasti collegati tra loro in video via satellite, anche dopo la catastrofe. Era quindi auspicabile che gruppi di amici o parenti decidessero di aderire insieme all'iniziativa. La cosa mi era sembrata talmente surreale che all'inizio non gli avevo dato tanto peso, ma dopo un paio di mesi risultò che incredibilmente mio padre era già riuscito a trovare altri due acquirenti, la sua più vecchia coppia di amici, zio Frank e zia Audrey, e un'altra giovane coppia di vicini, i Barney. Quando avevo sentito che il quarto sarebbe stato Eric, poco era mancato che mi venisse un infarto. Passai le settimane seguenti in crisi nera a domandarmi come avesse potuto mio suocero farsi convincere a una tale assurdità. «Scusa, Mark, come farebbero gli occupanti a vivere qui dentro per mesi? Questo posto è completamente isolato dall'esterno, vero?» «Certo. L'altra botola su in giardino, quella circolare, ha un cilindro di metallo a resistenza termica. Al cui interno sono installati un trasformatore di corrente e un sistema di comunicazione via satellite. Mm-hmm. La parte superiore del cilindro è una griglia mobile che viene manovrata dal computer qui sotto. Sulla sua superficie sono installate due piastre metalliche, un trasmettitore satellitare e un ricevitore di microonde. Il primo è una sorta di sofisticata antenna radio che trasmette e riceve attraverso un satellite georbitale, in assenza cioè di qualunque altra apparecchiatura a terra. Serve a tenere collegati i quattro rifugi tra loro, dato che in caso di catastrofe nucleare tutti i ripetitori a terra verrebbero distrutti. Inoltre il modulo è dotato di una testina in fibre ottiche, costruita in resina legata, praticamente semi-indistruttibile, che permette di osservare quello che succede in superficie, sopra il rifugio. In pratica una telecamera esterna. Ma in caso di guerra nucleare tutto andrebbe distrutto. Da cosa verrebbero alimentati questi macchinari? La soluzione sono le microonde, sempre con l'aiuto del satellite georbitale che funziona a energia solare. Su ordine del computer a terra, il satellite può riconvertire una minima parte dell'energia immagazzinata in un fascio di microonde concentrato che viene sparato sulla piastra ricevente a terra. Qui le microonde vengono riconvertite in energia elettrica dal trasformatore, che è a sua volta collegato a questo generatore. E per quanto riguarda l'aria, come si fa a respirare? Attraverso un ininterrotto ricircolo interno. L'aria del rifugio viene continuamente filtrata e riarricchita di ossigeno. In questo modo l'autonomia del rifugio è illimitata, almeno fino a quando al filtro è garantita l'energia per funzionare. Inoltre il filtro funziona anche da climatizzatore, mantenendo la temperatura sui 20 gradi costanti e alla giusta percentuale di umidità. Tutta questa roba deve valere un patrimonio. Come fa a costare tutto insieme solo $100,000? In effetti, credo che per la prima volta in vita sua tuo padre abbia fatto un buon affare. Da un punto di vista commerciale, si intende. In effetti questo rifugio vale almeno il doppio di quanto è stato pagato. Ma del resto i nostri vecchi sono stati i primi clienti in assoluto della ditta costruttrice e hanno beneficiato di un mega sconto. E sono tutti come questo gli altri tre rifugi? Ah sì, certo. Sono uguali identici. E in questo preciso momento ce ne devono essere diverse altre decine in costruzione per tutto il paese. Ora, abbiamo appena ascoltato, diciamo, la descrizione sommaria di questo rifugio. Allora, io qui avevo vicino a me Giuseppe, che stava bestemmiando tutti i santi no, che conosce. Dai, non per... Perché e voleva giustamente un attimo commentare. E i due Giuseppe, in realtà, so che avevano cose da dire. Ma, ma prima di far parlare i bestemmiatori seriali, vorrei spostarmi dal lato moderato. Non so se è moderato, cioè di Lobby. Lobby, non so se ha qualcosa da dire su questo tipo di tecnologia, se ne ha competenza, se ha qualcosa da dire al riguardo, o se vuole come me solo godersi lo spettacolo degli altri due Giuseppe che sclerano male. Stavo andando a prendere i popcorn, quindi credo si intuisca la mia risposta. Bene, allora io lascio no parte, allora, tecnico, vorrei, se, allora se Giuseppe lo permette farei partire Peppe. Ma poi no, lascerei la parola a te. Sì, per me non ci stanno problemi. Ma per me perché... No, allora, quello che mi ha fatto... Mettiti qui, giro amico. No, ma no, è che il mio bestemmiare era collegato... Non ho bestemmiato, poi lo dico per gli ascoltatori. Vieni qui, vicino. Va bene. Il discorso che mi si faceva nella testa era un sacco di collegamenti in realtà con il resto della storia, che adesso non voglio spoilerare. Cioè, tutto quello che è stato detto è teoricamente un concetto tecnologico che adesso sicuramente Giuseppe mi bastonerà, che è tutto teoricamente realizzabile. Ok, diciamo una cosa, aspetta, prima di continuare, perché devo fare un attimo una precisione. Avete sentito, ovviamente è il commento che i due protagonisti praticamente fanno prima della catastrofe, infatti avete sentito che ridevano, non è perché sono due coglioni, giustamente, cioè sono un po' coglioni, ma non è questo il punto, è... cioè, questo è il pezzo della storia poco prima che succeda il disastro, però per spiegare meglio, per contestualizzare meglio il tipo di rifugio in cui ci troviamo, in cui ci saremmo trovati. Esatto. No, adesso Giuseppe già mi bacchettava, cioè quello che io credi, che a me mi veniva a dire è tutto su quello che poi sarebbe avvenuto più in là, infatti lo giudicherò più in là, lo contestualizzerò i miei improperi per più in là. Magari però a me faceva molto ridere quest'ottica del piccolo gruppetto di familiari che acquistano in blocco e sono collegati da un satellite, come se ci fosse questo satellite magico, come quel discorso della tecnologia magica che dicevamo prima, cioè la tecnologia che risolve tutto, il satellite che risolve tutto, che manda le microonde, che collega i quattro bunker, che sono totalmente autosufficienti, è il deus ex machina narrativo che deve dire ok, fuori non ci si può andare, dentro però si può vivere perché la tecnologia ce lo permette, è un deus ex machina perfetto. Giuseppe, un attimo, facciamo un excursus. Allora, abbiamo un rifugio antiatomico, sì, multifamiliare, quindi più stanze, sì, diciamo così, non collegate fisicamente fra loro, ma collegate attraverso un satellite, che sono tutte collegate attraverso un computer. E ognuna ha un'autonomia grazie appunto a questa tecnologia fantomatica delle microonde che un'energia continua che fornisce loro energia elettrica, ossigeno e tutto quello che hanno bisogno per comunicare. È bello che non ho parlato dell'acqua e fa il caffè anche. Che per forza ci deve essere un circolo come nelle astronavi delle acque dei fluidi. Esatto, che non devono essere contaminate. Quindi proprio deve essere. Allora, e tutto questo nel 2010 al costo di $100,000. Quattro bunker, $25,000 l'uno. Ora, io non sono esperto, tu non credo che bazzichi in quest'ambito, però adesso facciamo anche un piccolo spoiler per un audio che avrei voluto far sentire, ma per ragioni di tempo non lo facciamo sentire. Nella storia scopriremo anche che il padre, cioè mi scordo sempre il nome, Norman praticamente, a un certo punto si scopre che Norman, su cui ha voluto risparmiare, è stato il multicollegamento simultaneo. Cioè, noi adesso con Skype stiamo parlando ovviamente in multiconferenza tutti e tre. Nella notte eterna del coniglio questa cosa non è possibile. Cioè, perché l'unica cosa su cui ha risparmiato è appunto la possibilità di collegare più terminali contemporaneamente. Ora, ti lascio la parola e commentaci tutta questa tecnologia dal tuo punto di vista, mentre Lobby si mangia i popcorn e io mi bevo la mia boccia di vino. Allora, partendo da un concetto che non sono un tecnico, però sono uno che è bruciato per quanto riguarda astronomia, vari tipi di tecnologie, comunque ci bazzico nell'ambiente e divoro di tutto. Devo dire la verità, io, come ho detto prima, non ho ascoltato l'audiolibro, ma ho visto solo il film, ed arrivati a questo punto credo che il libro sia anche più assurdo del film. Mi spiego meglio. Allora, innanzitutto iniziamo a smontare un po' di punti. Loro parlano di un satellite. Giuseppe sta godendo per questa cosa, sappi. Partiamo, allora smontiamolo appunti, perché io poi ovviamente mi adotto il metodo scientifico che per buttare giù una puttanata colossale come questa deve andare per forza in maniera corretta, tranquilla, per dei punti, altrimenti se no sono sgarbi al Senato che non risolve nulla. Si mette la mascherina. Bravissimo. Allora, primo punto, il satellite geoorbitale. Uno, bisogna dire a queste persone che quando tu spari un corpo estraneo, non dotato di tutta una serie di componentistica che hanno al giorno d'oggi i satelliti odierni, in ottica geoorbitale, molto semplicemente, tutti quanti hanno studiato al liceo quella che viene chiamata la gravitazione universale. La legge della gravitazione universale, che dice che in pratica quando un corpo di dimensione varia vi si avvicina a un altro corpo, la gravità dei due ha un certo tipo di influenza ed è il rapporto alla massa del corpo. Voi sapete che il pianeta Terra è un pochino più piccolo di un pochino più grande di un satellite, per cui, riassumendo in maniera molto spicciola, ma sarebbe simpatico farne un discorso abbastanza lungo a livello astronomico. Un satellite dopo mesi, se non è stato messo in ottica non georbitale ma in ottica geostazionaria, che sono due termini completamente differenti, sarebbe andato schiantato al suolo in 4.48. Poi, seconda cosa, per quanto riguarda la fibra ottica, che dice che la fibra ottica è quasi indistruttibile e permette di guardare all'esterno. Ovviamente, come tutti sappiamo, la fibra ottica non è nient'altro che un enorme cavo di vetro in cui vengono sparati degli impulsi di luce e che poi vengono convertiti delle apparecchiature proprietarie in bit, quindi 1 e 0, quindi luce senza luce, luce non luce, per fare i famosi 0 e 1. Il problema della fibra ottica, loro sparano fibra ottica per dire che è molto meglio. In realtà la fibra ottica è, da questo punto di vista, almeno per quello che so a livello di materiali, è la scelta peggiore che potessero fare. Perché la fibra ottica, di base, come voi sapete, il vetro, se voi prendete un vaso di vetro e lo schiantate contro una parete, non credo che rimanga intatto. Stessa cosa, se un cavo di l'ultima volta che ho controllato era così, effettivamente. Bravo, Se un cavo di fibra ottica rimane all'esterno e, come voi sapete, succede veramente un attacco nucleare, il nucleare a questo di solito viene veicolato tramite bombe. Le bombe hanno il cattivo vizio di esplodere e di detonare. Ma guarda un po'. No. Proprio per questo, detonando l'onda d'urto, in pratica avrebbe completamente distrutto qualunque tipo di cosa che sia stata in fibra ottica, ma anche in rame, e solo se fosse stata adeguatamente, diciamo, termoprotetta, eccetera, sarebbe potuta sopravvivere. La cosa, loro avranno utilizzato la fibra ottica perché si saranno fatti il misero concetto in testa che il rame soffre di dispersione elettromagnetica, e quindi quando tu viene un'apocalisse nucleare, si chiama appunto nucleare proprio perché ci sono delle radiazioni. Le radiazioni manderebbero in tilt gran parte delle apparecchiature, come succede anche durante le tempeste solari sul nostro pianeta, che sono di entità molto minore. Per quanto riguarda poi qua diciamo parte, cioè, perché lui, per quanto riguarda la trasmissione di energia, poi va alla grande, veramente le spara una peggio di un'altra, perché come appunto un satellite in orbita geostazionaria dovrebbe tecnicamente ruotare insieme al pianetucolo a cui ruota, quindi il nostro, e proprio per questo il laser, che tecnicamente dovrebbe ridirezionare a terra, che poi con quanto esborso di energia è un altro conto, che secondo me non sarebbe per nulla in pari, anzi fortemente in perdita, ma vabbè. Quindi con un lag mostruoso pure fra una comunicazione. No, ma è un fatto proprio generale, cioè, nel senso, la NASA non l'ha mai utilizzata una tecnologia del genere, perché sarebbe pura pazzia. L'unica cosa che stanno facendo adesso è provare ad accelerare, sono ancora allo stadio teorico, una sonda della grandezza di una moneta, sentite bene, di una moneta, con un'enorme vela solare, sparandola con un laser ottico, proprio per questo motivo, per accelerarla e in pratica evitare il grosso problema che hanno i razzi quando lasciano il nostro pianeta, cioè vincere la gravità. Per quanto riguarda il fatto appunto del laser sparato a terra, visto che lui dice che è di microonde, quando noi abbiamo a che fare in un apocalisse nucleare, sappiamo che le radiazioni sono non sono nient'altro appunto che delle radiazioni fortemente ionizzate, che il microonde se lo mangiano a colazione. Quindi in pratica tu puoi sparare tutti i raggi che vuoi di microonde a terra, ma non ti arriva praticamente una benamata ceppa. Considera che le microonde sono tendente all'infrarosso come spettro, radiazioni fortemente ionizzanti sono sopra lo spettro dell'ultravioletto, quindi sono migliaia di volte molto più potenti. È come se tu cercassi di uccidere King Kong con una fionda a palline, in pratica di carta, e non è proprio paragonabile. Quindi, cioè, proprio a livello energetico, le microonde che butti a terra non risolverebbero in pratica nulla. Tant'è vero che tu col forno a microonde ci cucini gli alimenti, ma se fai esplodere anche una mini bombetta nucleare e ti ci metti la mano, non è che fai una bella fine. Quindi è molto molto logico e molto pratico da analizzare questa cosa. Poi per quanto riguarda il riciclo dell'aria, effettivamente anche qua secondo me aria e acqua cioè condensiamo, sì, questo ultimo punto in un unico cosa. Sì, dell'acqua se ne ha proprio fregato. Dell'aria, questo fantomatico lui che ha detto, ora non mi ricordo bene, comunque teneva un condizionatore, una cosa roba assurda, un sistema di ricircolo che mantiene temperatura, umidità e arricchisce di ossigeno l'aria viziata. Come che di solito, cioè Fallout, basta giocarci, ha risolto questi interrogativi in maniera molto più elegante, in maniera molto più pratica e molto più realistica. Fallout forse diciamo... dopo il 2003. Sì, no, okay, no. Fallout il prima è del 97. Il lobby videoludico. Vai, il primo Fallout è del 97, quindi okay, come sì. Gioco, però dico come storia si ambita in un futuro, ma le tecnologie presenti in Fallout sì. sono comunque molto più credibili di questa, perché questa non la definirei neanche fantascienza. Qua siamo appunto sulla supercazzola. E mentre quello che riguarda appunto Fallout sono delle tecnologie che sono adesso, perché sì, alla fine il grosso problema è di depurare l'aria, si risolve con dei filtri in maniera osmotica che già adesso sono riproducibili senza troppi problemi. Tant'è vero che i bunker antiatomici, raga, ci stanno. Cioè, il presidente degli Stati Uniti, quando è successo quello che è successo pochi giorni fa, twittava da un bunker antiatomico. Cioè, non è che dici, sai, i bunker antiatomici non esistono, sono fantascienza, esistevano anche nel 2003. Diciamo che non si sono documentati granché. Per questo io non ho mai scritto libri e credo che non li scriverò mai, perché fissato come sono, probabilmente ci metterei dai 15 ai 30 anni per scrivere una storia, perché poi io sono fatto così. Se non la rendo la maggior parte plausibile, poi mi esplode una vena da qualche parte. Quindi tecnicamente, a livello tecnologico, poi ovviamente ci sarebbero tutta una serie di altre obiezioni da fare con persone che ovviamente hanno lauree e sono molto più preparate di me nei diversi campi che abbiamo analizzato. Però con questa tua analisi molto dettagliata abbiamo capito che comunque la tecnologia descritta nella Notte Eterna del Coniglio va presa un po' tanto al chilo, in realtà. No, è una super cazzola, perché io nel distingo, senso, cioè dobbiamo un attimo, diciamo così, sospendere il nostro giudizio parecchio oggettivo, ma di parecchio, perché poi nel senso, a me perciò non è che mi sia piaciuta granché la storia. L'obiettivo di fondo è ottimo, però come l'hanno narrata, secondo me avrebbe dovuto fare un po' più di ricerche. Perché mi spiego molto semplicemente: io vedo la fantascienza, la divido in due enormi macro categorie. La fantascienza, quella che a me piace, e cioè quindi quella di Star Trek, quella che vediamo nei film di oggi, eccetera eccetera eccetera, che è una fantascienza che si basa su dei concetti comunque reali, astratti, ma reali, cioè si ha delle fondamenta su quello che noi a livello teorico e fisico già conosciamo. E quella è una fantascienza per me fattibile, anche perché come la robotica, tutte queste cose qua sono comunque basate su delle fondamenta che hanno un senso scientifico a tutti gli effetti al giorno d'oggi. Loro ovviamente lavorano di fantasia, auspicando un futuro possibile. Il futuro che descrivono loro non è possibile, è totalmente improbabile, perché non crea delle tecnologie. Come ha detto prima l'altro Giuseppo, in pratica lui utilizza un Deus Ex Machina forzatissimo per rendere il lettore, lo spettatore edotto, facendosi diciamo tutto il tizio che ha fatto delle ricerche per rendere plausibile la storia, però in realtà secondo me non se l'è fatte e ha utilizzato questo enorme Deus Ex Machina, perché secondo me alla fine non gli interessava proprio ai fini della narrazione. Però perché per quanto mi riguarda, quando tu basi una situazione del genere, storie del genere a livello utopistico in questa maniera, volendo rappresentare il fatto, chiamatemi cacacazzo, chiamatemi il tizio peggiore del mondo, però se a me non me le contestualizzi in una minima parte in maniera concreta, per quanto io abbia credo una buona dose di immaginazione, mi scoccio, cioè perché proprio noto, il mio cervello si inceppa, nota proprio i diversi pezzi di storia che non collidono fra di loro, e secondo me è questa la differenza tra uno scrittore normale e un ottimo scrittore. Basta vedere come si chiama quello lì che scrisse il codice da Vinci, ora non ricordo. Sì, Dan Brown. Dan Brown. Caso di un uomo che prese proprio tutto, proprio tutta la storia, la religione, la cultura, tutto un tanto al chilo. Bravissimo, io li ho letti tutti, Dan Brown, quello là, uno dei libri che è Crypto, sempre di tutta la migliaia di libri, diversi libri che ha scritto che fanno parte del codice da Vinci, Crypto, che ha connotati informatici e criptografici. La cosa bella è che lui, se le andate a cercare, è come dire: io Interstellar lo vedo e lo reputo un grandissimo film, perché Nolan ha proprio richiesto diverse consulenze a chi fosse specializzato in fisica quantistica e fisica teorica, proprio per rendere fattibile anche da chi ha una minima conoscenza quello che ci ha fatto vedere. Quando invece vai a finire nell'ottica della supercazzola, il film, il libro, l'opera, per me ne risente tantissimo, anche perché io sono abbastanza appassionato. Una persona normale potrebbe anche non accorgersi per nulla, però comunque secondo me anche chi è ignorante comunque gli stride nell'orecchio sentire queste cose, perché proprio secondo me si perde un po' per strada. Poi non lo so, può darsi io che sono molto cacacazzo. Bene, allora molto cacacazzo. Infatti mi sembrava bene che sei un cacacazzo. No, assolutamente no. No, è stata un'analisi molto molto approfondita la tua e ci è molto piaciuta. E adesso direi, dopo questo lungo discorso che ci ha molto smontato, diciamo, la storia, almeno dal punto di vista tecnico. Non siamo critici verso questo. No, assolutamente no. Allora, continuiamo con la nostra narrazione, perché a questo punto c'è l'ultima parte che in cui vorrei a questo punto creare un minimo di dibattito fra Peppe e Francesco. Sull'ultimo punto che secondo me è giusto trattare della storia della notte eterna del coniglio, e vado un attimo a raccontare che cosa succede dopo. Una volta che è scoppiata la bomba e i personaggi si trovano appunto ognuno praticamente nel proprio bunker, i quattro bunker vengono occupati rispettivamente da praticamente... Nel frattempo qui partono messaggi incredibili, vabbè, andiamo avanti. Vengono occupati rispettivamente da Norman e sua figlia Jane, che occupano un bunker, Eric e Mark, cioè padre e figlio, ne occupano un altro, la coppia dei due coniugi vicini di casa di Norman, ossia zio Frank e zia Audrey, la famiglia Barney, composta praticamente da Nancy e i due figli, mentre il marito di Nancy viene disperso. Nancy sarà importante per un punto che adesso racconto. E poi nell'ultimo bunker ci sono i due coniugi, zio Frank e zia Audrey, che sono due parenti appunto della famiglia della protagonista, di Jane. Che succede? Praticamente già subito, ovviamente, passa nemmeno un secondo e già la situazione ovviamente sembra quasi precipitare. I protagonisti subito si lasciano andare allo sconforto, si cerca subito di capire che cosa fare, ma i personaggi, per quanto vogliano rimanere razionali, subito accusano moltissimo la situazione in cui si trovano, ed è una situazione molto stressante perché non hanno idea di che cosa sia successo, non hanno delle informazioni di prima, anche perché vista la tecnologia altalenante di questo film, di questa storia, come abbiamo visto sia del film che dell'audiolibro, non hanno la possibilità di capire bene che cosa sia successo. Noi come spettatori lo sappiamo attraverso l'audiolibro, perché sempre con una nota dell'autore noi veniamo a conoscenza naturalmente di cosa sia successo a grandi linee. I personaggi invece ne hanno solamente una vaga idea. E che succede? Praticamente i personaggi iniziano sin da subito a regolarsi, perché scoprono appunto che, non essendoci un multicollegamento, devono fare a turni per utilizzare appunto questo collegamento. I bunker appunto si collegano uno alla volta, e quando non sono collegati uno alla volta fra di loro, possono collegarsi con la telecamera che è collegata verso l'esterno, e quindi cercare di vedere insomma se c'è movimento, se qualcosa appunto là fuori si muove o se qualcuno sta venendo appunto a soccorrerli. Ad un certo punto, proprio la famiglia Barney, che sta aspettando il marito incessantemente, loro sono i più, appunto, i più impauriti per questa situazione, perché vogliono sapere il padre dei bambini, vogliono notizie. Succede una cosa. Succede che, appunto, nel bunker occupato da Mark e suo padre avviene qualcosa di straordinario in quella situazione. Sentono bussare alla porta. E qui praticamente il lato più tecnologico di questa storia, diciamo, si spegne per far posto alla narrazione orrorifica thriller, perché il fatto che qualcuno fuori un edificio antiatomico dopo un'esplosione nucleare bussi alla porta naturalmente diventa un elemento assolutamente orrorifico e incomprensibile, specie quando noi, appunto, l'unico punto di vista che abbiamo diretto è quello di una persona che non sta in quel bunker ma sta in un altro e che può, appunto, ottenere un'informazione solamente in maniera indiretta dagli altri personaggi. Tutti vogliono sapere chi sta bussando alla porta, solo che Mark sin da subito inizia innanzitutto a depotenziare la forza di questa notizia, perché ricorda a tutti quanti che suo padre non ci sta più così tanto con la testa, quindi potrebbe non essere vero quello che sta sentendo, potrebbero essere voci nella sua testa, perché appunto la situazione è quello che è, i personaggi iniziano a perdere la brocca, quindi Mark cerca di non far trasparire troppo questa cosa, cerca appunto di farla passare come un delirio del protagonista, cioè di suo padre, mentre gli altri personaggi vogliono una variazione di questo schema, vogliono saperne di più e quindi spronano Mark a dire più cose, ma Mark, per non esacerbare troppo la situazione, resta molto sulle sue. Succede però che a un certo punto anche Mark inizia a sostenere che qualcuno ogni tanto bussi alla porta, e solo che loro non si fidano ad aprire, perché potrebbe essere chiunque, potrebbe essere un malintenzionato, potrebbe essere qualcuno che purtroppo è contaminato, quindi un rischio ulteriore per la salute di chi occupa il bunker. Ma qualcosa avviene. E adesso ci ascoltiamo questo audio, si chiama È un coniglio l'audio che dovete ascoltare tutti quanti voi, i miei ospiti. Ci ascoltiamo questo audio in cui praticamente finalmente Jane riesce a sentire proprio dalla voce del padre di suo marito, quindi il primo che ha sentito questo bussare, che sostiene di aver capito chi sta bussando. Quindi adesso ci ascoltiamo questo audio e poi rintroduciamo l'argomento e facciamo parlare Lobby e Peppe. Quindi è un coniglio. Ciao tesoro, ero preoccupato per te, sai. Non volerne a Mark, lui non vuole farti preoccupare troppo. Ha chiesto anche a me di non contattarti più finché questo mistero non sarà chiarito. Dice che le cose stanno diventando troppo strane e incomprensibili e che è meglio tenervi fuori. Ma io lo so che tu sei tanto apprensiva e così io ho approfittato del fatto che Mark sta dormendo e che io sono di guardia per dirti che puoi stare tranquilla. Che cosa vuol dire che sei tu di guardia, Eric? Beh, Mark ha deciso che dobbiamo restare collegati con l'esterno in osservazione e l'unico modo è di fare i turni per dormire. Non lo vuole ammettere, ma è convinto che presto lui tornerà a farsi vedere. Eric, che cosa avete visto là fuori? Mark dice che io l'ho visto solo di sfuggita, ma invece ho avuto tempo di osservarlo chiaramente. Eric, dimmi che cos'era, per favore. È un coniglio. Un grosso coniglio. Un coniglio? Cioè, vuoi dire un animale? No, certo che no! È una persona vestita con uno di quei costumi da coniglio che si mettono alle feste mascherate o Halloween. Quei costumi di peluche a grandezza d'uomo. Quando ero giovane ne avevo uno anch'io. E anche Mark ha visto un uomo vestito da coniglio? Oh, lui molto più chiaramente di me. Appena è successo era eccitatissimo e mi ha detto tutto senza pensarci. Aveva visto proprio quello, un grosso coniglio rosa. Poi mi ha detto di non parlarne con nessuno. Ha detto che le cose stanno diventando sempre più strane e incomprensibili e pericolose. La verità è, anima mia, Che sono io a sapere qualcosa che lui non sa e a non volergliela dire per non spaventarlo. Io so chi è lui, è l'angelo della morte, ecco cos'è, è venuto a prenderci per completare la sua opera perché non vuole che rimanga nessuno. Ma tu non ti preoccupare, tesoro, mi raccomando. Guai se Mark sapesse che ti ho fatto agitare. Ora è meglio se chiudiamo. Anima mia, buonanotte. Ora, che cosa è successo in questa scena? Praticamente, Eric, in questa storia, viene descritto un po' come il veggente pazzo, quello che riesce a guardare al di là delle... diciamo così, della visione dell'uomo moderno, no? Quest'uomo che appunto è riuscito a ritornare nella sua bolla così perfetta di innocenza, però da questa bolla riesce a guardare le cose da una maniera totalmente diversa e a prenderci più degli altri. E quindi che succede? Praticamente quando inizia questa cosa del bussare alla porta, soprattutto Nancy, ok, questa donna che sta aspettando il marito, si è convinta che, appunto, in questa isteria che la coglie, praticamente si è convinta che l'uomo che sta bussando è proprio il marito, perché lei sta aspettando che quest'uomo ritorni dai suoi figli, è proprio apprensiva in questo senso, e comincia a litigare anche con Mark e con tutti gli altri, perché naturalmente gli altri sono straconvinti che non possa trattarsi di, appunto, di Patrick, cioè suo marito. Ma lei ne è arci convinta e anzi comincia a sospettare che proprio gli abitanti degli altri bunker non vogliano farlo entrare, che lo vogliano uccidere. Addirittura si lascia andare a questa sorta di teoria complottista. Ora, io vorrei un attimo sentire la vostra opinione, Peppe, e Lobby, proprio su questo fatto, perché in una situazione come quella che abbiamo vissuto in questi mesi, cioè di quarantena, di sospetto continuo nei confronti di un'autorità che ci ha voluto tenere lì nascosti in questi bunker che sono diventate le nostre case, perché appunto ci siamo fiondati nei supermercati a riempirci di cibo, di cose, di prodotti che ci sarebbero tornati utili in questa quarantena. Abbiamo cercato di occupare il tempo in ogni maniera possibile, ma alle volte non siamo proprio riusciti ad evitare proprio di odiare chi ci ha messo lì e che purtroppo ci ha costretti in qualsiasi modo a rimanere in casa. Come si arriva al punto in cui proprio sbrocchi completamente, cominci a vedere il sospetto come ti giri? Praticamente ogni persona attorno a te diventa un nemico, ogni cosa, ogni situazione diventa un pericolo, e soprattutto quando qualcuno ti spiattella di fronte alla verità, no? Tipo in questo caso è una verità assurda, cioè è un coniglio, una persona vestita da coniglio, no? Cioè, come cogliamo alle volte le piccole grandi verità del mondo che ci circonda e come abbiamo vissuto, secondo te, secondo il tuo punto di vista, questo periodo in casa, cercando sempre nuove notizie che potessero in qualche modo diminuire anche in qualche modo il tempo che noi passavamo senza avere nuove informazioni? Come l'abbiamo vissuto secondo te questo periodo in casa e qual è la tua esperienza personalmente, Lobby? Mia personale oppure vogliamo dire in generale su... Entrambe. Allora, personale in realtà vorrei quasi bullarmi, sono stato tranquillo, diciamo, nel senso che... un pregio, una qualità, è che sono estremamente adattabile ai contesti, alle persone, alle cose. Quindi quando ho saputo, ok, dovevo stare a casa, mi sono stato a casa tranquillamente e facevo comunque le mie cose, perché per quanto possibile ho cercato di portarle più sul digitale possibile, anzi ne ho approfittato per fare, il primo mese in realtà è stato un pochino destabilizzante dal punto di vista che se prima mi svegliavo alle 6 per andare a correre, fare attività fisica, per il primo mese prima delle 10-11 non riuscivo proprio ad alzarmi dal letto, quindi è stata di nuovo un'abitudine che ho dovuto riacquisire, quella di svegliarmi relativamente presto. Dal punto di vista emotivo della pesantezza della situazione non l'ho avvertita, più erano più dubbi dal punto di vista lavorativo, però tipo un mese e mezzo, due, sono riuscito a fare la quadra e cercare di capire come come fare. Poi ho ripreso proprio anche a fare meditazione mindfulness, quindi anche quella mi è servita molto e ancora su 2 mesi che riesco a farla ogni giorno, quando prima prendevo un pochino come si fa con l'attività fisica in generale. Ok, da domani inizio ad andare in palestra, poi 5-6 giorni, poi molli, poi invece magari attività fisica non riesco a farla ancora tutti i giorni come facevo prima. Quindi tu, diciamo, hai seguito un modello molto sano comunque per passare questo periodo, nonostante, vabbè, hai perso magari l'abitudine di svegliarti più presto, però quantomeno, cioè, non ti sei, diciamo, abbandonato alla disperazione. No, ci sono state, giustamente, soprattutto a marzo, un paio di momenti, ma sono durati tipo un giorno, in cui non è che mi volevo ammazzare, però comunque un pochino più down ci sono stati dei momenti che si sono risolti in 24-48 ore, però più legati al punto di vista lavorativo che dal punto di vista, che ne so, delle relazioni, di tutta la dimensione, più l'incertezza dal punto di vista lavorativo, ma non un pochino, perché davvero iniziavo davvero a fare la conta di quanti soldi facevo, le divisioni, ok, secondo le tasse che dovrò pagare, con questi soldi ci posso pagare, campare tot, davvero iniziando un pochino a razio, cioè non sono uno sperperatore di soldi, anzi tutto cioè non sono un tirchio, ma neanche li sperpero i soldi. Beh, sei una formichina operosa, dai. abbastanza, però quindi dal mio punto di vista un pochino, cioè, le difficoltà ci sono state, però sono riuscito a gestirmi, bene o male sono stato sereno e continuo bene o male con lo stesso mood da diverso tempo. Ok, prima di passare al, diciamo, al lato globale, vorrei farti una citazione a questo punto, una citazione quasi colta, devo dire. E vorrei che un attimo me la commentassi anche per, diciamo, ampliare il discorso. Vorrei un attimo ricordare con te quella grandissima cosa, sia in negativo che in positivo, che fu l'esperimento carcerario di Stanford, che sono sicuro che tu conosci come sì, di Zimbardo, sì. Esatto, sì. Philip Zimbardo fece questo esperimento, ok, di creare una sorta di prigione finta, prendendo degli studenti universitari praticamente da qualsiasi tutti di estrazione sociale media, bene o male erano tutti piuttosto, diciamo così, della classe media, più o meno tutti bianchi, quindi non c'era una grossa differenza sostanziale fra di loro, anzi erano tutti molto normali. Però fece questo esperimento di costruire una prigione finta nei sotterranei, tra virgolette, dell'università di Stanford, appunto, in cui divise, appunto, alcuni studenti in carcerieri e alcuni incarcerati in maniera completamente arbitraria, proprio lanciando una moneta, cioè tu sei un carcerato, tu sei un carceriere, e li mise praticamente in questo contesto molto serrato, molto chiuso. Solo che questo esperimento, che doveva durare, adesso non ricordo se un mese, una settimana, comunque un periodo piuttosto lungo. Almeno due settimane. Almeno 2 settimane, venne praticamente chiuso dopo almeno un paio di giorni. Perché no, a metà circa. Vabbè, questi sono dettagli quando però quando comunque non raggiunse nemmeno la quota minima, in realtà, di giorni che lui si era prefissato. Perché, appunto, iniziarono delle vere e proprie, diciamo così, dei veri e propri comportamenti molto così, molto incontrollati, molto inaspettati da parte sia delle guardie che dei carcerati stessi, perché alcuni di loro erano talmente tanto introiettati in questa nuova realtà che non riuscivano a tornare indietro. Secondo te, parlando anche del contesto della notte eterna del coniglio, di come poi evolve la situazione nella storia e di quello che stiamo vivendo anche magari proprio di rigurgiti di complottismi vari che abbiamo vissuto, secondo te l'esperimento carcerario di Stanford potrebbe essere un minimo di esempio, quantomeno di cosa da tenere in considerazione quando si fa un'analisi di questo periodo? E tu che cosa ne pensi in generale di questo accostamento che ti ho fatto? Che c'entra un pochino come il cacio sulla pasta con le vongole. No, in realtà no. In realtà un accostamento c'è e non c'è, in realtà. Sì, perché comunque quello è stato più un esperimento che ha voluto vedere come l'autorità, come il senso dell'autorità può influenzare i comportamenti delle persone, come persone normalissime, quando in realtà è più contestuale forse questo esperimento, vagamente più contestuale a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché comunque delle persone che si trovano con un certo potere, che si riconoscono, magari sono dei cittadini normali, poi nel momento in cui diventano poliziotti incominciano ad esprimersi in modo tutt'altro che civile, diciamo, più che il venire, più che il rimanere dentro, chiusi, costretti. In realtà è un accostamento, diciamo, piuttosto, davvero faccio difficoltà a fare un accostamento a quello che abbiamo vissuto adesso, che oppure perché di Salerno gli aiutanti degli sì, persone normali in delirio di onnipotenza. Sì, ma anche i controllori, conosco della gente che sono dei controllori che diventano dei pezzi di merda assurdi in autobus, quando sono in autobus, che sono le persone più tranquille, più per i diritti civili, più per, però quando diventano là iniziano a dire: beh, però quel marocchino, sempre sti marocchini, sempre sti zingari qua. È la droga del potere. Sì. È la droga del potere. Sì, per dirti. Sì. Poi c'è sempre l'annosa questione se è il potere che ti fa diventare così, oppure se già c'hai delle predisposizioni. Risposte forse non ce ne sono per adesso, o meglio dovrei cercare se ci sono degli altri esperimenti. Io non ho molto, cioè, questo ambito di conoscenza non ce l'ho molto espanso, diciamo. Mi occupo un pochino di altro, cioè non mi giustifichi che non dovrei sapere queste cose, però magari me le vado a ricercare. Non me la faccio con gli ausiliari del tram. Secondo te, in questo periodo, no? In questo periodo di reclusione forzata o meno, no? Cioè, come, dalla tua esperienza, secondo te abbiamo vissuto in maniera piuttosto sana a livello globale questo periodo? Oppure ci siamo riscoperti più bestie di quello che eravamo prima? Allora, credo che questo sia il punto che volevo toccare citando l'esperimento di Zimbardo. Ecco. Sì, sì, ok. Nel senso, quello che ci si aspettava, diciamo, quello che infatti si sta verificando, comunque un incremento dei disturbi di tipo ansioso, depressivo e anche psichiatrico, è una cosa che si è verificata in effetti, comunque, perché comunque comunque un qualcosa che rompe repentinamente le abitudini e le costringe in uno spazio piuttosto ristretto, con mille incertezze al di fuori, dal punto di vista economico, delle relazioni, della sicurezza, anche per quanto riguarda la salute, più che altro gli aspetti più paranoici, il mettere con quelli là che erano particolarmente, più ipocondriaci quasi, con quelli là che erano particolarmente preoccupati dal punto di vista della salute, che a volte quasi ci dimentichiamo per il fatto che della gente può essere preoccupata per il contagio di per sé, mentre altri fattori a volte sono diventati più salienti, ripeto, dal punto di vista della sicurezza economica, delle relazioni, del senso di costrizione. Giustamente, alcune è sempre più facile da un punto di vista cognitivo assumere, cioè prendere per assodato, credere a qualcosa che è più mosso dal punto di vista emotivo che dal punto di vista razionale. Facciamo questa distinzione, che in realtà non esiste una vera distinzione tra emozione e ragione, però Ci fa comodo citarla. Mi sto perdendo. Riportami sui binari, scusami. No, allora a questo punto vorrei un attimo allora introdurre Peppe, così iniziate un minimo di dialogo fra di voi su questo punto. Cioè, su come la società effettivamente ha sbroccato in questi giorni, no? quello su cui vorrei ragionare. Sì, ha sbroccato e ha sbroccato. E se era prevedibile anche se è qualcosa che avevamo già visto, oppure se questo periodo così è stato un esperimento interessante, o se ha solo confermato delle cose che erano uno spettro magari di quello che già sapevamo prima, ok? Allora, ma posso... prego, okay. Prego, vai Francesco, perché io... No, perché ormai sì, mi aggancio a sta cosa, perché ora mi riporto sui binari. In realtà in qualche modo è stato prevedibile, perché comunque degli studi su altre... su altri lockdown, sugli effetti delle quarantene già ce ne sono stati, perché questa volta è stata, vabbè, non voglio riferirmi all'ultima situazione del genere, che mi riferisco alla spagnola che è successa circa 102 anni fa, più anche a quando ci sono stati la SARS, la MERS, comunque in modo localizzato, dove è emersa sempre in Cina, Corea, sempre nei paesi orientali, le situazioni del genere già le hanno vissute in realtà, quindi ci sono stati dei precedenti piuttosto recenti che in qualche modo ci hanno sono stati un oblò queste situazioni, per quanto riguarda un oblò per capire come come ci saremmo comportati anche adesso. Infatti è emerso subito uno studio sugli effetti non tanto del lockdown, proprio della quarantena, perché impariamo un po', facciamo un pochino la punta al cazzo. Una cosa è il lockdown, cioè limitazione dei contatti sociali eccetera eccetera, restate chiusi a casa per non diffondere il contagio. Un'altra cosa è la quarantena, quando ti sei infettato devi stare rinchiuso a casa, possibilmente nella tua stanza, e avere forse un secchio solo per pisciare, oppure comunque di uscire e di avere uno spruzzino di disinfettante per coprire le tue tracce, praticamente. Quello è una situazione molto più angosciosa, perché non solo perché lì si son verificati, cioè dal punto di vista emotivo, quelli che spesso viene riportato è comunque un certo senso di colpa e disturbo dal punto di vista ansioso e depressivo, cioè ce ne sono verificati maggiormente in questi qua proprio che hanno... sono stati sottoposti a quarantena, soprattutto quando si è visto quando erano praticamente soli in casa, non c'era altra gente a supportarli, quando c'era anche una mancanza di informazione o di possibilità di informarsi, quando c'era anche una scarsità di risorse dal punto di vista alimentare, che soprattutto dal punto di vista alimentare. Quindi comunque questi sono tutti dei fattori che vanno a peggiorare l'esito gli effetti dal punto di vista psicologico da una situazione di quarantena. Quindi gli studi sono stati fatti più magari sull'effetto della quarantena che sul lockdown di per sé. Giuseppe? Comunque... Perdonami. Ho finito. E allora, vai Giuseppe. Che posso dire? Io sinceramente non ho un'opinione in sé per sé su quello che sei, se ci siamo comportati come una bestia, oppure se è andata bene, poteva andare peggio. Allora, il discorso che possiamo fare è che quello che dicevate prima sull'esperimento di Stanford, sul fatto che l'autorità dà potere, ma noi siamo così... E il potere mi ha dato una via di sbocco per questa onnipotenza, delirio di onnipotenza, oppure se è il potere che corrompe. Il fatto è questo: è che entra nell'annosa, anzi plurisecolare, dibattito sull'uomo naturale, dei giusnaturalisti, degli illuministi, del tentativo assoluto di definire l'essere umano come un essere umano spurio, privo della cultura, come è l'essere umano. Purtroppo questa tipo di definizione non esiste, perché l'uomo e la cultura sono un tutt'uno, e direi che voglio fare questa nota: la cultura non è solamente un elemento costituente dell'essere umano, ma è un elemento costituente di tutte le forme di vita, anche animali, cioè in senso. Mi piace molto la definizione della mia vecchia professoressa, che diceva che l'uomo, quando si parla di uomo e animale, è totalmente sbagliato, bisogna parlare di animale, umano e non umano, non di animale e umano, perché l'uomo è un animale. Comunque, a parte questa piccola delucidazione che mi piace sempre fare, gli animali hanno una cultura, e pertanto gli uccelli, per esempio, non hanno dei dialetti. Voglio ricordare il caso degli elefanti in Africa, che ultimamente si stanno riconoscendo, gli etologi stanno riconoscendo degli elefanti giovani estremamente aggressivi, perché il bracconaggio della caccia delle zanne dell'avorio ha ucciso tutti gli adulti, e pertanto i giovani non conoscono più le modalità di comportamento, e pertanto per accoppiarsi o per avere il dominio del branco utilizzano dinamiche molto più aggressive degli elefanti del passato. Ma questo è per dire che l'uomo e la cultura sono un tutt'uno, quindi cercare di scollegare l'uomo dal cercare di capire se è il potere che ci rende corrotti o se è il potere che in realtà ci dà solamente una via di sfogo, appunto, per la nostra crudeltà e cattiveria, è parlare del sesso degli angeli. Quindi non voglio addentrarmi in questa conversazione, cioè non voglio addentrarmi, c'è un casino, ma ora non mi ricordo, voglio solamente citare Hobbes, che è un grande pensatore, che diceva semplicemente che l'uomo era lupo fra gli uomini, homo homini lupus, quindi il fatto che lui era estremamente convinto che l'uomo fosse naturalmente corrotto e poi la società l'abbia arabbonito. Ma è l'unico che mi ricordo, quindi è l'unico che citerò. Però il dibattito è veramente secolare, ha portato alla nascita dei diritti dell'uomo, alla scomparsa della pena di morte, alla scomparsa della tortura, che in realtà è stata ripresa ultimamente. Limitazione, diciamo, della diffusione, più che scomparsa. Che cosa ho detto? Che cosa ho detto? No, ha detto più della scomparsa della pena di morte e della tortura. Sì, no, giusto, hai ragione, della limitazione della pena di morte. E quindi no, niente, è un enorme, grossissimo discorso. Quello che è successo in questa quarantena purtroppo non possiamo definirlo, perché siamo noi solo italiani 60-70 milioni di persone. Quindi io ho avuto a che fare con gente estremamente ligia, anzi, esempio, ieri sera sono uscito con degli amici, sono andato sul locale dove mi hanno guardato tutti malissimo quando sono andato con la mascherina. Tutti erano senza mascherina, che si abbracciavano, si baciavano, si stringevano le mani e via dicendo. Tu eri l'elemento di disturbo. Io ero l'elemento di disturbo, perché io e i miei amici eravamo in un tavolino, in un angolo, tutti a un metro di distanza dal tavolo, senza mascherina, per poterci parlare guardandoci in faccia. Cioè, perché ci sono tantissimi elementi che hanno rispettato questa quarantena, pur soffrendone, e moltissimi elementi che non si sono resi conto minimamente del cambiamento tra la fase 1 e la fase 2. Gente che mi diceva: ma che cambia, tanto io uscivo anche prima, e io mi arrabbiavo. Cioè, quindi non si può fare un caso di come ci siamo comportati. C'è stata un'isteria collettiva, c'è stata, sì, io non l'ho notata, perché fondamentalmente non uscendo di casa non l'ho notata, abitando anche fuori paese non l'ho notata. E ci sono tantissime altre cose che potrei parlare, però non so se vorrei concludere con una domanda. Allora, questo blocco, stavolta però vorrei coinvolgere anche Giuseppe nella cosa. Quanto secondo voi, signori, questo periodo che stiamo vivendo può insegnare all'antropologia, alla cultura, alle scienze comportamentali, alle scienze cognitive? Quante e quali secondo voi lezioni stiamo apprendendo in questo periodo, anche dal punto di vista dell'uso della tecnologia? Perché prima ne abbiamo parlato, ma non abbiamo sfiorato proprio, abbiamo toccato anche bene dell'uso che se ne fa della tecnologia e del modo in cui l'abbiamo percepita anche in questo periodo. Secondo voi quante e quali lezioni possiamo apprendere in questo periodo? Ma perché voglio fare una piccola nota iniziale, perché vorrei fare proprio un tracciato divisorio fra la notte eterna del coniglio e quello che in realtà noi abbiamo vissuto. Nella notte eterna del coniglio ci siamo trovati di fronte a scene di isteria, paranoia, crisi psicologiche o psichiatriche. Adesso Francesco poi mi correggerà sulla differenza, adesso non la so. Comunque, per una totale assenza di informazioni, mentre quello che gli esperti hanno rinominato come infodemia, ovvero un estremo vomitare di informazioni un'estrema ricerca delle informazioni da parte delle persone, che appunto questa infodemia, questa pandemia di informazioni, ha portato tantissimi danni sia alle persone stesse, perché non capivano più che cosa dovevano fare, perché le informazioni vive o veritiere o comunque trasmesse dai canali ufficiali venivano messa al vaglio del dubbio, perché c'erano talmente tante informazioni sbagliate o comunque che apparivano sbagliate, che quelle che apparivano vere venivano comunque sospettate di essere incorrette. Adesso non so come dirlo, però comunque di essere sospetto, erano considerate sospette, perché c'erano troppe e non ci capivo più una mazza. Quindi ci troviamo di fronte, cioè, due ambiti completamente diversi, ma dove in tutti e due i casi abbiamo trovato casi di isteria psicologici estremi, casi estremi, sì. Ci sono stati suicidi grossissimi anche in Italia a causa della situazione opprimente, restringente di incertezza che abbiamo visto. Volevo dire questa cosa per... Da tutto questo, da cosa possiamo imparare? Cosa possiamo imparare? Da me non lo so, perché cosa hai attinto da questa... Io personalmente cosa ho attinto? Oddio. O quantomeno cosa pensi potresti a questo punto, su cosa potresti ragionare a questo punto? Magari non hai raggiunto magari una risposta a questo punto, però su chi sei soffermato di più a ragionare in questo periodo e su cosa ti sei focalizzato? Ok, mi sono focalizzato. Ok, questa la dico solo personale, perché nell'ambito accademico antropologico l'antropologia sta andando a nozze con questo periodo, ma non so niente, lo ammetto, perché partiamo dal personale. Il personale, quello che ho capito, è stato ragionare più che altro su me stesso. Cioè l'assenza di una... anzi, in realtà il mondo digitale mi ha invaso. Perché mi ha invaso? Ma il fatto di essere io il mondo digitale, senza una persona fisica con cui avere il contatto, quindi senza l'ansia e la pressione psicologica del vedere la persona e delle scadenze e tante cose che comunque avevo lo stesso, perché ho avuto 3 esami durante la quarantena, ho avuto parecchie riunioni e via dicendo, ma personalmente ho imparato a dare più attenzione a me stesso. Questa è una cosa che ho imparato. Dal punto di vista accademico, per l'antropologia posso dire che stiamo andando a nozze con tantissimi lavori che stanno facendo, tantissimi lavori di ricerca, perché adesso, per esempio, il problema più grosso della quarantena e del lockdown non è tanto la quarantena e il lockdown, ma la ripartenza. Cioè, come sarà il mondo adesso? Quando le persone... anzi, io dico anche personalmente, quando è che io veramente senza paura inizierò di nuovo a riabbracciare le persone, a parlarci senza la mascherina, a stringergli la mano quando le incontro? Cioè, abbiamo subito un trauma sociale, che è, oltre ad essere psicologico per il singolo, è proprio un trauma sociale che porterà dei cambiamenti. E qui mi fermo perché non ho moltissimi altri argomenti, lascio la parola agli altri. Lobby, tu che cosa pensi che si possa attingere da questo periodo? Allora, la tecnologia da un certo punto di vista ci ha aiutato, sia durante la quarantena, per quanto se ne possa dire, comunque, ok, l'infodemia è stato un gran casino, soprattutto perché se ne è approfittato anche per diffondere delle fake news, ma non in modo così casuale, in modo mirato, cioè il Copasir, il Copasir praticamente ha proprio stilato un documento perché ha ricercato che c'è stato proprio un attacco mirato all'Italia e ad altre nazioni, quelle più colpite, proprio di fake news in modo sistematico sulla diffusione del virus, sulle manovre che hanno alimentato anche possibili complottismi o altro. In realtà è un po' distinta, diciamo, il concetto sia di fake news che di complottismo. Le fake news sono più sottili, cioè, mentre il complottismo dice il virus non resiste, oppure controlla eccetera eccetera, non volevo citare il solito mercurio e sta roba qua, le fake news sono più del fatto che la mascherina sono cancerogene, si dice che, oppure hanno visto lo studio che abbraccia per 10 secondi non ci si contagia, più ste puttanate qua, diciamo, sono più sottili, magari sono più difficili da sgamare, soprattutto se ci colpiscono dal punto di vista emotivo. Però lasciando da parte l'infodemia, comunque i contatti sociali li abbiamo potuti continuare anche e soprattutto come stiamo facendo adesso noi, lasciamo stare il fatto che siamo distanti, quindi questa cosa per forza si poteva fare così. Però comunque ha un pochino sdoganato anche le videochiamate, che io detesto, però capisco che dal punto di vista proprio della prossemia, cioè di osservare comunque, di poter avere comunque un tipo di comunicazione, di rapporto più fedele alla realtà, ci deve essere anche la componente video, per quanto in realtà il nostro cervello si sforza tantissimo comunque cioè sono molto più faticose le videochiamate rispetto che i rapporti vis-à-vis, i rapporti reali, proprio perché il nostro cervello deve comunque andare a ricostruire delle cose che per cui di base sarebbero più naturali, più spontanee, non avrebbe bisogno, cioè se le vedrebbe così di fronte non avrebbe bisogno di ricostruire in continuazione, di fare degli altri sforzi per fare in modo che quel tipo di comunicazione sia più simile al, cioè comunque il nostro cervello comunque l'avverte la discrepanza che e siamo di fronte a uno schermo magari un pochino pixelati, a volte va l'audio, a volte non va l'audio, quindi secondo te però comunque usciremo da questa quarantena desiderando molto di più la presenza di altre persone, perché magari prima di questo lockdown eravamo in un periodo in cui in realtà era quasi auspicabile un momento come questo in cui ognuno stava a casa sua e non ci rompevamo il cazzo a vicenda. Secondo te, usciti da qui, potremmo tornare genuinamente a desiderare la presenza degli altri vicino a noi? Non so se ci sono degli studi, perché comunque se non ci sono degli studi, premetto, dico, sono mie opinioni, mie, diciamo, miei ragionamenti che faccio, che non necessariamente sono reali oppure sono prossimi alla realtà, magari hanno fatto degli studi del genere. Io dico che più dipende sempre da persona a persona. Ci sono delle persone che hanno desiderato di più altra gente, altre persone che si sono quasi assuefatte, quasi misteriosamente assuefatte a questa situazione e ci stanno quasi bene, quasi quasi è diventata una rottura. Che palle, mo devo vedere della gente dal vero, che noia. Come anche della gente che ha detto che comunque non ce l'ha fatta dall'inizio e comunque ha fatto un pochino i cazzi suoi, magari hanno avuto anche culo a non farsi sgamare, a non farsi multare, comunque non ce l'hanno fatta dall'inizio e dicono piuttosto che impazzire completamente è rischio e faccio comunque che cavolo voglio io. Sempre dipende soggettivamente, anche in modo inaspettato. Io ti posso dire per esempio che parecchie persone hanno cominciato a ricontattare magari altra gente che non sentivano da diverso tempo, oppure ti dico per esempio c'è una mia amica molto, molto estroversa, la tipa che c'ha amici dovunque, che c'ha tipo una comitiva di un cazziglione di amici dovunque, cioè stanno sempre a 10 di loro. Con questa quarantena ha ricominciato a rivedere i suoi spazi, ora davvero vede pochissime persone, cioè ne ha approfittato per in realtà non tagliare, però per limitare questa sua riscoprire un po' la solitudine, questo iper, insomma. Sì, a un certo punto infatti io credevo che stesse chissà girare, invece no, sta lavorando molto e ogni tanto vede degli amici, cioè quando prima invece faceva uscite con 20 persone alla volta quasi sempre non usciva mai, invece questa quarantena proprio si è riscoperta da quest'altro lato e ci sta quasi meglio, diciamo, ci sta quasi marciando. Anche io in realtà alcune persone, alcune paradossalmente alcune relazioni che magari o erano, diciamo, fisicamente si è avuto poco, cioè ci sono state delle persone che avevo conosciuto relativamente da poco e paradossalmente si è fatto più amicizia, si è migliorato di più questo rapporto durante il lockdown con la distanza, e invece altre persone ne ho approfittate quasi per tagliarle, diciamo. Ci sono delle persone che magari frequentavo più prima che non c'è stato più quel guizzo di cercarlo, di cercarsi e anche con l'apertura non ci si è ancora viste, neanche c'ho questo desiderio di andarle, cioè di vederle queste cose, quindi credo che sia molto più, per me è molto più soggettiva sta cosa, il voler ricercare oppure addirittura l'aversi scoperto in un'altra dimensione. Poi può darsi che anche faccio una ricerca adesso su PubMed e mi ricerco nei database che hanno fatto più uno studio dal punto di vista già delle relazioni, anche se diciamo sono durati poco tempo, forse fra l'anno prossimo usciranno degli studi su delle ricerche che stanno facendo adesso, e ci saranno più, che ne so, che ci sono delle caratteristiche predittive di personalità o d'altro che permettere di prevedere se una persona sarebbe stata poi più disposta ai rapporti o meno. Però adesso sono solo mie opinioni, quindi valgono quel che valgono. Bene, ottimo. E per concludere questo pensiero, rapidamente, Giuseppe, tu invece che ne pensi? Cosa si può imparare da questo periodo? Allora, personalmente, tanta depressione per quanto mi riguarda, nel senso che io sono sempre stata la persona, per quanto sia uno che parla molto nei podcast, eccetera, eccetera, eccetera, sono il classico esempio di persona che quando sta insieme ad altre persone fisicamente tende un attimo ad estraniarsi il più possibile, perché gli piace vedere il movimento delle masse e farsi delle pippe mentali sopra. Per quanto riguarda questo periodo, ho fatto la stessa identica cosa, nel senso ho preferito chiudermi nel monastero come fanno i monaci, a livello ovviamente sempre di pensiero, di espressione del pensiero, perché ovviamente comunque le mie cose le facevo, cioè uscire a fare la spesa le facevo, a girare eccetera, comunque lo facevo in un'ottica abbastanza normale. A me questa quarantena non mi ha cambiato granché la vita, più che altro la rottura di scatole è stata avere mascherine eccetera, con cui, essendo soggetto allergico, ogni volta, soprattutto i primi periodi, dovevo andare a spiegare che non avevo il coronavirus, ma era solo l'allergia, per cui non stavi uccidendo metà della popolazione del tuo paese. Se ma, te lo scrivevi sulla mascherina la facevi prima, no, me lo volevo scrivere sulla maglietta, poi arrivato a quel punto ho detto ma a me che cazzo me ne frega degli altri, e sono andato dritto per la mia strada, perché poi a me succedono queste cose. A un certo punto mi rendo conto che forse do troppe spiegazioni alla gente di quello che faccio, e allora un bel vaffanculo risolve tutto. Per quanto riguarda la riflessione sulla tecnologia relativa alla quarantena, dico finalmente, perché io sono una persona che adora la tecnologia, ma ne sono abbastanza intimorito, ovviamente sempre con spirito critico, perché io parto sempre da questo esempio che ti ho fatto pure l'altra volta quando ci siamo sentiti, che mi ha fatto la mia professoressa di storia, che a me mi si è piantato come un chiodo nel cervello, cioè nel senso che, appunto, come la bomba atomica, dipende come utilizzarla, perché l'energia nucleare, ritornando sempre alla notte del coniglio, può essere sia utilizzata per fare una bomba, sia per creare energia in maniera illimitata e con creazione di scorie minima. Per cui questa dicotomia io l'ho avvertita tantissimo, perché un sacco di gente si è letteralmente riversata in quella che si chiamava prima la blogosfera, incurante abbastanza, perché voleva evasione, voleva ovviamente una vita diversa da quella che stava vivendo, perché era chiusa in casa in maniera forzata e forzosa. I telegiornali, se si guardavano, ovviamente urlavano tutti quanti che stavamo per morire tutti, saremmo morti tutti quanti di una bruttissima morte, riduzione della popolazione mondiale a livelli assurdi, e quindi effettivamente voleva evasione. E secondo me, come al solito, quando tu una persona magari non troppo esperta di un mezzo la comprimi ai fianchi pur di uscire, secondo me fa delle scelte non propriamente giuste. Guarda, poi per quanto riguarda la situazione in generale, per me è stato un momento di isteria totale, cioè io da fuori in campagna, per quanto mi riguarda, la situazione è stata abbastanza tranquilla, ma in giro per l'Italia ho visto una situazione isterica, cioè proprio veramente da film post-apocalittico, l'inizio proprio di The Walking Dead, dove tutti quanti urlano e sbraitano a destra e a sinistra aspettando di essere mangiati dalla controfigura zombie per poi fare una brutta quindi vita. Secondo te abbiamo imparato che siamo destinati sempre a impanicarci in questa vita? Più che altro sì. Io allora esprimerò un concetto che probabilmente mi farà finire in galera, però io continuo a rimanerne... Tanti poliziotti non ascoltano il podcast di Leo. Dici, va bene, sarà. Nel senso che io mi sono ulteriormente convinto che una massa di persone più o meno grande, ma soprattutto in generale una massa di persone che di base tende verso il basso come intelligenza generale, cultura generale, se non viene adeguatamente indirizzata, non comandata, perché ovviamente non stiamo gestendo il bestiame, anche in un'ottica alcune volte un pochino fascistoide, perché si sa che la gente è un po' stupida, quindi ogni tanto gli devi dare le martellate nelle gambe per ovviamente raddrizzare la strada che stanno percorrendo. Bisogna cercare di contenerle, di fargli capire che ragazzi, bisogna informarsi bene e farsi un pensiero critico. Ma questo qua non ci arriveremo mai, perché ormai la storia ne è piena di situazioni simili a questa, e ho capito che non impareremo mai la lezione, oppure la impareranno sempre troppo poche persone. Concludendo, ultime due cose, volevo dire che secondo me, appunto, ogni generazione ha bisogno di un periodo di crisi, di fortissima crisi, per imparare qualcosa e sperare che il più persone possibile recepiscano qualcosa di positivo e poi facciano passare l'umanità a un livello superiore. Lo abbiamo visto con la Seconda Guerra Mondiale con i nostri nonni, la Prima Guerra Mondiale con i nostri bisnonni, la crisi degli anni 80 e 90 con i nostri genitori, soprattutto in Italia, vabbè, tutta la situazione della lotta alla mafia. Noi credo che, anche se ovviamente in ottica completamente diversa, potremmo annoverare il coronavirus, tutti i problemi derivati dalle nuove tecnologie che diciamo si stanno facendo largo in questi primi 20 anni degli anni 2000, l'attacco alle Torri Gemelle del 2001, come diciamo il nostro bagaglio, tra molte virgolette, di sofferenza che dobbiamo portarci addosso, sperando di far meglio come umanità, far meglio come persone, un po' in tutto. E concludo dicendo che veramente io starei delle ore a sentire Lobby e Giuseppe, perché io adoro sia la psicologia che l'antropologia, e vorrei avere del tempo illimitato su questo pianeta in modo da carpire il più possibile. Con questo credo di aver spiegato più o meno quel che penso, e sono molto depresso, ripeto, perché ho visto veramente tante cose che non vanno, tantissime cose che non vanno, però spero che questo bagaglio di sofferenza ci possa, a magari poche persone, gli possa far fare lo step successivo e quindi portare il pianeta Terra, l'umanità, a un livello migliore, si spera. E partendo poi da questa cosa che dicevi, Giuseppe voleva aggiungere qualcosa. Scusate, io aggiungo quest'altra piccola cosa, che è una di quelle cose che mi fanno finire in carcere a me probabilmente, oppure bannare il blog di Leo per sempre, non lo so, non credo. È una cosa di mia filosofia personale, ma che sono anche molto convinto che sia vero, che è una cosa che veramente potremmo aver imparato pensando alle lezioni. Ed è una cosa che volevo dire, che secondo me questa epidemia, cioè proprio questo virus, per noi è stata una botta di fortuna. Cioè, siamo stati estremamente fortunati con questo virus. Uno, perché non è, cioè, nel senso, poteva capitare una roba del livello di mortalità dell'Ebola con lo stesso livello di diffusione del Covid, e quindi siamo stati nella, posso dire, merda? Sì, qualcosa di airborne. Se questa malattia sarebbe stata davvero trasportata per via aerea, eravamo tutti fottuti. Esatto, eravamo ovviamente nella merda. Ma il fatto è che una cosa che in realtà ci ha insegnato tantissimo è che non siamo immortali. Allora, noi c'è proprio un tema fondamentale dell'antropologia e della psicologia, anche immagino se ne parli molto, del fatto della cancellazione della morte, dell'allontanamento della morte. Cioè, noi siamo esseri umani che nasciamo, viviamo e prima o poi moriremo, ma questo concetto è totalmente estirpato da qualsiasi forma culturale. La Disney non fa mai vedere il cattivo morire, cioè lo fa sempre vedere che cade nel burrone, scompare nelle nuvole, che scara, che viene attaccato dalle iene, ma si vede solo l'ombra. Cioè, la morte non se ne può parlare. Quando Jurassic Park l'ha preso la Disney, l'Indominus Rex è morto. Come è morto? Morso dal dinosauro nell'acqua e trascinato giù nelle profondità. Ok, a parte questi esempi della minchia, ma la morte è veramente stata eradicata come principio dalla nostra vita. E il concetto, per spiegare quello che voglio dire, usa una citazione di non mi ricordo chi, che dice che la cattiveria è solamente delle persone che non hanno capito che non vivremo in eterno. Quindi tanta cattiveria, tanta tanta crudeltà, tanto egoismo che noi ci permettiamo. Tanta stupidità. Tanta stupidità. Che però la stupidità è fondamentalmente l'egoismo concretizzato. Perché dico io ho ragione e basta. Per quello che dicevamo all'inizio mai sul io so di sapere perché io sono la voce di Dio, io sono la voce del sapere. Dipende dal fatto che noi non pensiamo che prima o poi tutto ciò che noi siamo finirà. Quindi il fatto di non pensare che finirà mi autorizza ad essere stupido, ad essere cattivo, ad essere egoista ed egocentrico. Questo poi è un pensiero mio, poi Francesco mi contraddirà e sarò contentissimo. Però il fatto che il Covid ci ha rimesso, ci ha fatto, come si dice, ci ha sbattuto il culo per te, ci ha tolto il tappeto sotto i piedi, ecco quello che volevo dire, di facendoci notare che non siamo immortali e che la nostra società è fragile tantissimo e che fino adesso abbiamo avuto un culo clamoroso a non aver incontrato una situazione letale come questa che ha coinvolto tutti quanti, prima o poi, adesso spero che qualcuno guidando la sua macchinina penserà che se smessaggia mentre guida la macchinina potrebbe morire, perché ha visto di fronte ai suoi occhi il fatto che la morte esiste, che la gente è morta, i camion che portavano via le salme, il fatto che ho perso il lavoro perché la gente rischiava di morire. Cioè, scusate, io la chiudo qui perché mi sono spiegato senza fare altri esempi, ma secondo me questo è quello che dovremmo aver imparato maggiormente da questo problema. E io a questo punto ripasso la palla al lobby, dopo però aver introdotto l'ultimo pezzo, l'ultimo blocco di questa serata che abbiamo passato assieme, visto che ci siamo avvicinati alle 2 ore, quindi a questo punto, dopo aver introdotto un attimo l'ultimo pezzo di questa cosa, ritorniamo da lobby. E poi l'ultimo... la voglio una critica di lobby, però assolutamente. Questa cosa qui. Ok, l'ultimo pezzo riguarda il film, ok? Il film La notte eterna del coniglio, una cosa piuttosto controversa. Allora, io so che Lobby non ha visto il film. No, l'ho visto. Alla fine l'hai visto? Sì, sì, sì. Perfetto, sì. Perfetto. Allora, a questo punto, parliamo del film, perché nel film ci sono delle differenze sostanziali e ripartendo dal discorso della cattiveria, vorrei un attimo cercare di raccontare la differenza sostanziale che c'è fra il finale che leggiamo nell'audiolibro e che presumibilmente è anche lo stesso del libro proprio e quello che vediamo nella ricostruzione cinematografica, che per forza di cose è diversa dalla storia originale. Un film non sarà mai al 100% uguale a un libro, sarebbe impossibile rifare una cosa del genere. Il film fa parte, adesso questa mia nota personale, fa parte di quel genere, l'ho detto nel Mattino Lore in podcast, fa parte del sostanzialmente del mio genere cinematografico preferito, che non è un genere, è una cosa che è una diciamo così, è un gruppo di film che sostanzialmente li ho messi io tutti insieme, che è quel genere di film che possono essere horror, thriller, drammatico. L'ha detto Giuseppe, l'ha detto. Ok. Il trash. Vabbè, aspetta, ci arriviamo, fammi finire. La merda. Tutti questi film fanno parte di questo genere che per me riguarda la povertà di location. Cioè tutti quei film che hanno, appunto, che sono costretti quindi a tirare fuori dal punto di vista della scrittura le loro cartucce migliori perché decidono appunto di limitare appunto tutti gli scenari fantastici, ok? Perché decidono di ambientare magari appunto la scena in un contesto molto circoscritto, molto piccolo, proprio visivamente, proprio geograficamente parlando. Il film La notte eterna del coniglio secondo me è stato costruito in maniera intelligente da questo punto di vista, perché appunto utilizza solamente una stanza, noi vediamo solamente la scena ritrarsi nella stanza della protagonista Jane, e l'unico diciamo sbocco verso l'esterno che vediamo è attraverso lo schermo da cui può parlare con gli altri personaggi, che però presumibilmente hanno registrato le loro parti nella stessa stanza in cui si trovano i protagonisti, e quelle brevi scene a metà film e alla fine fuori appunto il bunker in una zona completamente brulla che appunto deve rappresentare giustamente il fallout nucleare, ovviamente quello che è successo dopo il fallout nucleare. Ora, sul film si potrebbero dire tante cose, è diverso secondo me. Quando l'ho visto per la prima volta io ho apprezzato molto, diciamo così, che la storia non avesse raccontato più di tanto, il contesto socioculturale. Non ce ne frega un cazzo alla fine nel film di sapere che la Cina ha attaccato. Ma neanche nel libro, in realtà, potrebbe essere stato totalmente depennato il libro uguale. Secondo me nel libro ha più senso però che ci sia, perché serve secondo me per ampliare molto di più il discorso che si può fare all'inizio del come noi possiamo appunto percepire la notizia, ed è anche secondo me cioè il fulcro della discussione che abbiamo fatto questa sera. Secondo me si può ritrovare molto bene anche nel libro, quando avremo la possibilità di leggerlo, se vorremo leggerlo in futuro. Secondo me tutti questi discorsi che abbiamo fatto stasera si possono ritrovare molto bene appunto nella prima parte della Notte Eterna del Coniglio, che però dopo lo stravolgimento appunto, cioè quando il contesto diventa molto più opprimente, molto più piccolo, il problema appunto si ridimensiona, non è più il problema globale della Cina che ha attaccato appunto gli Stati Uniti, ok? In questo caso appunto la storia è un film italiano questo, e la storia è riportata in Italia appunto, cioè abbiamo sempre, diciamo, la storia è la stessa, nel senso c'è sempre questa donna che si ritrova rinchiusa con suo padre e con un altro personaggio che nel libro non c'è, che è una che è un idraulico, vabbè, che poteva starci come non starci, è utile quanto niente, perché è un ombrello nel Sahara, no, se serve a è Super Mario, sì, l'idraulico, sì, esatto. No, e poi si chiama Marco, come in realtà Mark è il marito nel vero libro, esatto, cioè ci sono citazioni inutili, serve a riempire dei buchi di trama che sono stati dovuti, perché sì, la trama è un vagamente diversa, esatto, cioè ci sono delle differenze che secondo me, alcune differenze tipo il fatto che la vicina Nancy nel film è stato rappresentato come la sorella della protagonista, secondo me ci sta, aiuta ad accentuare il dramma il fatto che appunto questa sorella non riesce a capire perché loro che sono sorelle non si spalleggiano, perché non fai entrare mio marito, cioè tuo cognato, non lo fai entrare, è lui che sta bussando alla porta. Insomma, ci sono delle dinamiche che secondo me in questo film sono state raccontate abbastanza bene. Nella povertà del prodotto generale, secondo me è stato fatto con un minimo di intelligenza. Però il grande però, io allora lo so che è pericoloso, quindi ascoltatori, tenetevi forte un attimo, perché io lo so che c'è Giuseppe di là che sta sbavando come un Rottweiler di fronte a una salsiccia dopo una settimana che non mangia. Giuseppe, io adesso, scusa, Pitbull, perdona, non mi muzzicare. Adesso io apro la gabbietta, per cortesia non bestemmiare. Ti lascio campo libero e mi commenti questo film. Poi, appena hai finito, passiamo la palla al lobby e poi conclude Giuseppe. Riattiviamo il registratore, perché intanto lo spegniamo. Esatto, farò ovviamente. No, vabbè, allora partiamo dal concetto. No, vabbè, partiamo dal concetto che a me. Allora, partiamo dal concetto molto semplice. Io a me, quando qualcosa non mi piace. Partiamo da un concetto ancora più semplice. Io adoro il cinema. Mi piace proprio il cinema. Mi drogo di serie TV e di film. Ho addirittura, credo sia uno dei pochi ad avere un'applicazione sul telefono che è un mini social network dove tu tieni traccia delle serie TV e dei film, no, che ti aspetta, vedi. Aspetta, è quello con la T che c'ha il simbolo una TV Time. Ok, a posto. Ok, sei una persona normale, mi piaci. Faccio un esempio, che chi mi può cercare là sopra può vedere che io ho all'attivo in questo momento oltre 450 film visti e oltre 382 serie all'attivo che seguo. Non li ho finiti, alcuni non li ho neanche iniziati, li utilizzo come placeholder, soprattutto le serie. Però io veramente adoro il cinema e quando posso, soprattutto la domenica oppure nei ritagli di tempo, adoro guardare il cinema, perché il primo film in videocassetta che abbiamo mai visto, di cui io ricordo, ovvero la trilogia di Ritorno al Futuro, mi fece capire che il cinema sostanzialmente è un bellissimo mondo. Fatta tutta questa enorme premessa, arriviamo subito a parlare di questo film. Io capisco che innanzitutto bisogna contestualizzarlo, cioè stiamo parlando di un film a basso budget fatto in Italia, da quello che ho capito, nel 2005, corretto? Il film è 2006, figura, ok, a posto, nel 2006. È vero che al giorno d'oggi il cinema italiano, almeno per quanto mi riguarda, è, non dico in ascesa, però ha dato delle belle botte, nel senso che noi abbiamo, lo chiamavano Gig Robot ultimamente, che è stato a tutti gli effetti un ottimo film, veramente girato come Cristo comanda, con, cioè non si sentiva che il sapore era italiano, perché purtroppo i film italiani, che a me questa cosa mi danno sui nervi, hanno appunto quel sapore italiano, cioè film a basso budget, i personaggi che o si comportano alla De Sica, che fanno le battutacce, quindi De Sica e Boldi, oppure fanno cioè partono tutti quanti da dei paletti preconfigurati e tu stai vedendo solo un more of the same, oppure fanno tutti quanti come quell'altro filone di film che a me stanno abbastanza sulle palle, che è quello tipo Se mi lasci, no, come cacchio si chiama, di oddio, l'idiota, purtroppo le persone stupide non me ne ricordo, no l'idiota, il regista italiano, quello stupido che fa solo drammi esistenziali sull'amore, come si chiama, che, oddio, cosa, che è Silvio Muccino. Bravissimo. No, è Gabriele Muccino. Bravissimo, che tu quando vedi i film suoi vedi proprio gli attori, la frago, non ce la faccio, che sono proprio in una crisi di nervi, tutti quanti urlano perché prende attori che non sanno recitare, veramente non sanno recitare, e iniziano ad urlare, ad esasperare, perché ovviamente partite da un concetto, come gli americani, visto che hanno l'acqua, che vivono, cioè hanno gli acquitrini, non hanno le, come a noi, le catene montuose che gli fanno arrivare acqua pulita, come potete vedere che fanno se bevono solo i beveroni, quindi non bevono l'acqua ma se bevono il tè, il caffè, il piscio di capra, ci mettono tutto, mettono il ketchup dappertutto, così è il cinema italiano. La cosa, dopo averla contestualizzata, però mi sono reso conto che comunque è un film che, per quanto mi riguarda, mio stretto giudizio personale, non si avvicina neanche lontanamente alla sufficienza, perché a parte una carenza mostruosa, vabbè, di budget, ci sta. Anche se ho visto che il film, non mi ricordo quanto è costato, ma più o meno con lo stesso prezzo, Claudio Di Biagio 2-3 anni fa, no, forse qualcosina di più, ha fatto il film su Dylan Dog, che è tutta un'altra caratura, con più o meno un budget simile. Ti è piaciuto quel film? Della morte dell'amore? No. Dice una, no, un no, no, il film su Dylan Dog. Ah, quello sui super effetti speciali? Bravissimo, Dylan Dog vittima degli eventi. No, non perché allora Giuseppe, allora Peppe qui sta dicendo quello lì hollywoodiano. Con Brandon Routh, lì no, quello è stata una quello è stato un mezzo stupro al personaggio. A mio personal parere quello è un insulto a Dylan Dog. Certo che è un insulto, infatti non capivo quello che parlava. È un mezzo è un mezzo stupro. Film poi made vabbè, di Dylan Dog. Facciamo fine Giuseppe, scusate la mia ignoranza, ma... No, vabbè, velocemente basta cercarselo su YouTube, Claudio Di Biagio insieme al Will Wush, tutte quelle personalità là al periodo quando erano ancora sulla cresta del una Londra, decina d'anni quella... fa proprio. No, tra sì, quando? Sì, c'era sì, non lo so, mi pare 2016, mi pare ricordare, non, comunque non ricordo, no 2016, no, 2010 forse, vabbè, comunque sì. Andatevelo a cercare, si chiama Dylan Dog vittima degli eventi, sta anche su YouTube. Raccolsero 50.000 euro come crowdfunding e fecero questo film che finalmente rende giustizia a Dylan Dog, quindi problemi di budget non esistono, perché se sei bravo e riesci a scrivere una sceneggiatura come Cristo comanda, no, il budget può essere anche minimo e comunque te ne esci. Il problema che io ho notato in questo film è, a parte la qualità attoriale che non ci sta, la sceneggiatura che fa veramente acqua da tutte le parti, cioè si vede che è un film molto 2006, perché quando nel 2006 il cinema italiano secondo me veniva fatto coi piedi, buttiamo i film giusto per se incassano bene, se no arrivederci e grazie, ma questo essendo un film a basso budget secondo me era stato scritto e diretto con ancora più il cervello spento rispetto alle produzioni decenti, perché il problema è proprio questo, cioè la trama è completamente inesistente, tu hai questi personaggi che si urlano addosso dal praticamente dall'inizio alla fine del film, come appunto buchi di trama mostruosi, perché noi abbiamo per esempio Redico 1 e poi ho completato la mia disamina, nel senso che partiamo dal ragionamento, tu all'inizio mi fai vedere tutta questa cosa assurda, guarda c'è stata la fine del mondo, le radiazioni, nessuno può uscire, e poi ti trovi sto stronzo che è un coniglio che piglia esce, quindi già ci sta qualcosa che non funziona, può essere un'allucinazione, va bene, alla fine si scoprirà che sarà uno dei tizi là, per cui mi va a cadere totalmente i primi 20 minuti di film che tu mi hai fatto il thriller psicologico angoscioso, guardate voi non potete uscire, siete chiusi come i topi in una gabbia, perché potevano uscire, guarda caso l'aveva capito chi, l'unico che era uscito pazzo di tutta la combriccola, perché ricordatevi, il pazzo capisce sempre tutto. A parte quello, poi successivamente facciamo un attimo un discorso più, diciamo, globale, no? Perché io prima vorrei riprendere un attimo una cosa che ho detto prima, cioè il fatto sì, che ma tanto due secondi, cioè erano le ultime cose e poi chiudevo. Quindi partendo da questa cosa, il film è così, sì. E per me non raggiunge per nulla la sufficienza, questo è. No, beh, allora a questo punto, allora un attimo, cioè ti riprendo una cosa. Il fatto che Eric, no? Perdonami, Norman, no? Che in questo film, allora nel film appunto c'è il pazzo, no? Il padre dello sposo sostanzialmente, no? Di cioè il botanico, quello così. Che se, quello che assomiglia il pelato di Brazzers, quello che poi esce. Esatto. Allora, però il padre abbiamo visto che è una persona candida, gentile, che però ci azzecca, no? E tu giustamente adesso hai detto il figlio praticamente ha capito anche lui cose, quindi padre e figlio sostanzialmente diventano un po' gli aghi della bilancia di questa cosa, ma in maniera completamente, diciamo, opposta, contrapposta, esatto. Non lo so, come la commentiamo questa cosa? Anche Lobby, se vuole intervenire su questa cosa. Ma guarda, io te l'ho detto già, secondo me il film, essendo stato proprio scritto male, cioè tu... io parto da un concetto molto semplice. Un film, quando è che è un grandissimo film? Quando tu non vedi le mani delle persone che hanno fatto quello, hanno fatto quell'altro, quindi lo sceneggiatore per quanto riguarda la cosa, il regista per quanto riguarda la regia, ma ti inserisci in quel mondo e dici no, io mi voglio vivere la storia. Tipo, per esempio, per me è un film che è l'unico film a cui ho dato nella mia lista personale, perché io ho una lista personale su Instagram, perché sono bruciato anche per questo, a cui ho dato, mi pare, 96 su 100, è stato Ready Player One. L'unico film che becca sotto è la trilogia di Ritorno al Futuro, che per me becca un 94 su 100. Perché Ready Player One, per chi è nerd e per chi gli piacciono gli anni 80, ci sono un bordello di riferimenti a Robocop, Ritorno al Futuro, c'è di tutto là dentro. C'è Shining pure. Bravissimo, tu ti siedi e ti godi la storia. Cioè, proprio la storia non è che noti quello ha fatto quello, quei personaggi si muovono perché alla fine devono arrivare a quel assunto. Tu proprio vedi proprio un viaggio, il classico viaggio da film ben scritto. Qui io vedo proprio, è come se vedessi in sala operatoria il chirurgo che te sta a mettere le mani nella panza a risolvere il problema. Hai capito? Vedo proprio le diverse figure che cercano in qualche modo di matchare, cercando di creare la magia, ma non ci riescono neanche di striscio. E quindi mi va prostitute il senso di la sospensione dell'incredulità, mi va prostitute, diciamo, proprio l'immedesimarmi in un'opera. E per me, quando un'opera fallisce l'obiettivo primario, come questo, che per me è un obiettivo primario, ovvero l'immedesimazione e il concetto che tu mi vuoi estrarre, perché alla fine del film io ancora non ho capito che cosa mi ha voluto insegnare questo film, a parte gente che urla e persone che escono pazze senza troppo motivo, non mi ha comunicato nulla, e quindi per me l'opera è fallimentare da tutti i punti di vista. Lobby, che ne pensi tu invece di questo film? Diciamo che io non partivo con chissà quale aspettative, quindi questo me l'ha, tra virgolette, salvato. Io, sempre per questione di budget, come dice Giuseppe, si può fare Ben Affleck con le grandi citazioni colte. Devo fare Ben Affleck. Solo non l'ho visto tanto una cosa davvero da facciamolo per fare. Forse un minimo di cuore c'è, però poi comunque con tutte le realtà, con tutti il budget, con tutta la situazione, è stato quello che è stato possibile fare con le maestranze e con le risorse che erano a disposizione, con la qualità delle risorse. Una cosa che ho, tra virgolette, apprezzato rispetto al romanzo, all'audiolibro, e comunque il fatto che mentre l'audiolibro è ambientato negli Stati Uniti, quindi c'erano tutti i nomi americani, cioè sarebbe stato 10 volte, cioè hanno avuto la decenza di dire no, qui se facciamo parlare le persone italiane, le chiamiamo Mike, George, Adam, Phoebe, come cavolo si chiama, diventa ancora più ridicolo. Almeno hanno avuto la decenza di ambientarlo in Italia, di farli chiamare, parlare in italiano. Poi che comunque ci sono la sceneggiatura sia quello che è, però ripeti, non sono un critico cinematografico. Riconosco che ci ho visto un filino di cuore, di voglia di fare, cioè se sembra davvero un'opera prima di un'opera prima di con tutte le cose che, cioè davvero molto molto indie amatoriale, diciamo, ci si vede questa mano amatoriale, cioè qualcosa che uno ha fatto e poi ha detto noi questo qui poi non, cioè mentre già lo realizzava dice mamma mia, cioè uno che ora si sta guardando nel passato e dice come buon René mamma mia la monnezza che ho fatto. però ci vedo, cioè non ci vedo tipo perché queste, non ci vedo perché c'è stata una certa pressione della produzione, semplicemente davvero sembra proviamola a fare sta cosa, a renderli una forma cinematografica a sto romanzo e vediamo come viene. Quindi non mi sento tanto di accanirmi, perché davvero io mi accanisco più quando c'è un qualcosa che viene fatto con alto budget oppure con quasi la convinzione di aver fatto qualcosa di buono e poi è una merda. Qui si vede quasi la consapevolezza, questo stiamo riuscendo a fare, portiamolo a casa senza infamia e senza nota, senza che sì, senza nota. L'unica nota positiva è che quella che fa Anne è una bella figliola, una gran bella figliola. Sì, possiamo confermare, sì. Confermiamo. Giuseppe? E allora, io del film, io sono uno di quelli che non sanno riconoscere Christian Bale da, penso, tutti gli altri attori, cioè Christian nel senso sono un incapace dal punto di vista cinematografico e guardo i film solo per la trama, perché purtroppo sono un iperconcentrato con le trame, mi piacciono le storie e via dicendo. Quindi, allora, dal punto di vista, tolto tutto, come diceva prima Giuseppe, tutto la sospensione dell'incredulità, quindi accettiamo accettiamo l'apocalisse, accettiamo che sono divisi nei vari bunker, accettiamo il fatto che siano italiani, perché giriamo un film italiano, come dice Francesco, giustissimo, sono d'accordo. Hanno cambiato moltissime cose e una delle cose che io non ho proprio ben capito è perché, adesso non abbiamo spoilerato la fine del libro, ma adesso ne parliamo, penso, di un pochino del resto del libro, ma va bene. Una cosa che non ho capito proprio è perché hanno dovuto cambiare la morale finale del film. Oh, esatto. Perché qui, aspetta, non mi introduci la domanda che faccio dopo. Non è uno spoiler, però il libro si basa sull'equilibrio fra cioè, però io ci ho proprio ragionato molto, quindi magari qualcuno può anche non essere d'accordo, ma alla fine sono arrivato a questa conclusione che il libro parla dell'equilibrio fra il fatalismo e il fatto che noi dovremo morire e la speranza che ci mantiene in vita, quindi l'equilibrio fra speranza e morte. Invece il film ha cambiato aggiungendo dei dettagli, tra cui il fatto che la protagonista è incinta, tra cui il fatto che c'è una terza persona che doveva essere vittima sacrificale, carne a macello, classica, che è l'idraulico, e il film invece parla proprio di un equilibrio fra vita e morte, come se fossero due cose uguali, alla stessa portata, allo stesso livello, che invece sul libro io ho apprezzato molto di più questa morale di equilibrio tra speranza e morte, perché io sono, come parlavo anche prima della morte, sono comunque molto congiunto sul concetto di morte e di fine delle cose, ma in senso filosofico e culturale, effettivamente finiremo morti, cioè tutti moriremo. Non c'è un equilibrio fra vita e morte che finiremo morti, scusate l'italiano, ma cioè noi moriremo tutti quanti. No, è bellissima, non era io me la segno perché questa è bellissima. Ok, grazie. Noi finiremo morti. Noi finiremo morti, cioè tutti noi moriremo. E quindi la speranza ci mantiene, non ci fa sopravvivere, ma ci fa vivere. Invece sul film è come se ci fosse un'entità della morte e un'entità della vita. Quindi noi potremmo vivere o morire, è uguale. Non è la stessa cosa. Ok, a questo punto vorrei chiedervi, quindi ripartendo sempre da Giuseppe, e poi chiedo anche a voi altri due. Quale finale avete apprezzato di più, quindi? Cioè, sembra scontato adesso richiedertelo, però quale finale hai apprezzato di più? Ah, paradossalmente è più coerente quello del libro. Senso, non voglio essere critico nei confronti dello scrittore, ma mi è piaciuto, se devo stare a vedere, mi è piaciuto molto di più il libro, l'audiolibro. Ok. Giuseppe? Beh, ovviamente l'audiolibro non l'ho analizzato a fondo e l'ho solo ascoltato con voi in questa sera, ma come già dicevo prima, per me diverse spanne l'audiolibro, perché comunque fa un ragionamento che, per quanto abbia dei piccoli buchini, ovviamente sulla sospensione dell'incredulità, io me li faccio andare bene perché i concetti che esprime e che l'altro Giuseppo giustamente ha detto, ha espresso in maniera credo che esprimerli in maniera migliore non si possa fare, 30.000 volte meglio l'audiolibro, perché almeno li vedi che ha un inizio, uno svolgimento e una fine con una morale salda che ti dà un qualcosa alla fine, mentre il film, diciamo, crolla sul peso del fatto che in parte, diciamo, tutta la parte tecnica è da dimenticare, ma soprattutto la sceneggiatura crolla per su se stessa, per i buchi che ha e per il finale che è confuso, perché io l'ho visto due volte, ma il finale paradossalmente è confuso. Cioè sembra il classico film che finisce per dire: mo abbiamo finito i soldi, te ma stacca la corrente, quindi chiudi, e chiudono, hai capito? Beh, è un punto interessante il tuo. E tu, Lobby, che ne pensi? Quale finale ti è piaciuto di più? Il libro... Sì, il libro c'ha comunque il fatto, comunque forse un pochino troppo, tra virgolette, scontato il fatto, cioè, che alla fine... Cioè, c'è questo male che si rincarna, cioè comunque molto da finale horror scontato, che c'è la scena in cui alla fine poi il cattivo non è morto, il mostro non è morto praticamente. Però quello del film è più anonimo, anche se paradossalmente è più disperato, ma semplicemente perché, come diceva Giuseppe, hanno dovuto staccare la corrente a un certo punto, cioè comunque, cioè, mentre l'altro da un certo punto di vista segnala, dice: ok, sono stati salvati, però in realtà c'è qualcosa, c'è questo cerchio che c'è questo... Cioè, più fa più intendere che in realtà l'apocalisse si sta avvicinando e ci si ammazzerà. Cioè, i pochi sopravvissuti comunque ci si ammazzeranno tra di loro, quasi. Invece nell'ultimo è più desolante, per dire: cazzo, ho fatto tutta sta roba, però ora sono davvero l'ultima persona sulla Terra, forse. Però... semplicemente l'hanno fatto perché non c'erano budget per fare gli elicotteri in cui vengono prelevati all'ultimo. Evil. Sì, no, perché all'ultimo davvero vengono con gli elicotteri militari, il padre si salva, eccetera, eccetera. Il problema, lo sai qual è? È che è un'opera, coperta da copyright, perché secondo me la chiusura perfetta del film, non so se vi ricordate, fa un enorme fade out, diciamo, si allontana piano piano e poi volge al nero. Io ci metterei sotto la voce di Pannofino, di Boris: non c'è budget, stacca, taglia! Va benissimo, ci va proprio benissimo. Mentre fai il fade out al nero, proprio che quello urla: non c'è budget, stacca! No, bisogna fare una nuova stagione di Boris in cui girano la notte del mercoledì. No, io ho già detto cosa ne penso di una possibile nuova stagione di Boris. Ma vabbè, poi mi hanno blastato tutti per questa mia opinione. E tu, Leo, che ne pensi del finale? Quale preferisci, audiolibro o... Allora, io ripeto, forse sono il più stronzo del mazzo, perché dal mio punto di vista, forse perché ho amore verso questo tipo di prodotti amatoriali che, ripeto, sono fatti in economia sicuramente, ma che a me piacciono le soluzioni intelligenti, ripeto, per le cose di questo tipo. Poi è ovvio, stasera ho imparato tante cose anche dal punto di vista tecnologico, tanti errori che hanno fatto, sicuramente io prima non me ne rendevo conto, e grazie a voi sicuramente ho, diciamo così, ridimensionato la cosa. Ma anch'io ho rivisto il film due volte. La prima volta ero molto più emozionato, devo dire, cioè ho visto il film, alla fine ero rimasto anche piuttosto soddisfatto perché conoscevo già la storia, mi piaceva vedere le differenze, insomma sono rimasto molto più contento. Alla mia seconda visione in realtà già vedevo molto di più come mostrava il fianco in altre cose che durante la prima visione non l'ho fatto. Però nonostante questo, io a questo film non riesco a volere male, e devo dire che nella scena poco prima del finale, cioè proprio nel momento in cui il cattivo fa il suo monologo, non facciamo spoiler di come avviene, io ho apprezzato molto di più quello proposto dall'attore rispetto a quello proposto nell'audiolibro. Secondo me a me in quella scena francamente mi ha convinto moltissimo l'interpretazione dell'attore. Io sono sinceramente rimasto colpito da come mi ha mostrato il lato più pazzo della cosa. Anche per questo che volevo puntare anche proprio del parlare dello sbroccare, dell'arrivare al punto in cui veramente dici tutto quello che c'hai in testa e ci tieni quasi a far capire in che modo sei sbroccato, ok? Ma per te era credibile l'attore? Secondo me sì, cioè a me è convinto francamente. Io non sono esperto di recitazione, quindi magari un esperto neanche vero. Io sono un esperto di recitazione, però se verrebbe film, a dirmi guardalo l'ultima volta, solo quella parte, magari in più rallentata. Vedi che mentre fa il monologo, lui per far sembrare che sta sbroccando, parte questa mascella e la parte a destra e a sinistra, a destra e a sinistra. Sembra che gli sta venendo un ictus, non che è uscito fuori di senno. Ma io in realtà ce lo vedo, nel senso, cioè, il momento isterico in cui tu non controlli più magari dei tic che ne so, che magari hai controllato, così che tu non te ne sei accorto. Secondo me accentuare delle movenze, in questo caso molto isteriche, secondo me non è sbagliatissimo. Allora, alla lunga può essere anche una posa, potrebbe anche essere un qualcosa che anche una faciloneria per rendere più credibile il tuo personaggio, sicuramente. Però a questo punto dobbiamo veramente iniziare a contestualizzare, a fare la tara praticamente su tutto quello che fa l'attore in tutto il film. Però secondo me in quel preciso momento, nel climax del momento, io ho apprezzato molto la sua interpretazione, francamente. Non lo capisco dal punto di vista tecnico, però io da spettatore che non sa un cazzo, francamente quella scena mi è piaciuta molto, mi ha convinto. Poi è ovvio, io probabilmente sarò la voce fuori dal coro e non me ne frega niente alla fine di essere la voce fuori dal coro. È una tua opinione, giustissima. E infatti no, ripeto, a me ha convinto perché comunque e devo dire, quel pezzo lì in particolare secondo me è fatto molto meglio rispetto all'audiolibro, che invece con le limitazioni proprio dell'audiolibro non ti restituisce lo stesso pathos, la stessa, secondo me, energia che quella scena dovrebbe appunto trasmettere, cioè quella del pazzo che appunto cerca di spiegarti nella maniera più folle possibile le sue ragioni. Poi ovvio, cioè, dobbiamo vedere pure chi, cioè è ovvio che quello lì non è Albertazzi, è chiaro, però non è Heath Ledger, grande irreprensibile Albertazzi, e non è il grande irreprensibile Albertazzi, quindi bisogna un attimo. Ma voglio fare spoiler per... No, però allora non facciamo spoiler per questo motivo. Allora, signore e signori, questa era la nostra opinione, questa era la nostra grande analisi della storia La Notte Eterna del Coniglio. Io ci tenevo tantissimo a fare questa live perché può sembrare una cosa fuori dal coro, molto di nicchia, ma secondo me c'entrava molto con questo periodo che abbiamo vissuto, e commentare un'opera che magari non ci ha convinti tutti e tre nella stessa maniera, secondo me ha portato a grosse, grossissime discussioni molto interessanti. E sono felice che appunto siamo riusciti a portarvi questo contenuto, e veramente sono strafelice che questi ospiti, che nonostante appunto non si conoscessero tutti quanti, hanno interagito in maniera perfetta. Quindi veramente con questi saluti finali, prima degli ultimi annunci, vado quindi a salutarvi uno per uno, cari ospiti. Quindi saluto che questo è l'antropologo che... No, non ancora. L'ho detto, non me ne frega niente. L'ho detto solo perché già, ma questo è un altro discorso. L'antropologo che questa sera ci ha deliziato veramente con molto più che i suoi studi sull'antropologia, ci ha messo veramente di tutto. Quindi grazie Giuseppe di essere stato grazie qui. Grazie a te, Leo. Saluto l'altro Giuseppe Pugliese, che insomma ci ha fornito lato tecnico, lato astronomico, ci ha veramente deliziato con le sue chiacchiere su qualsiasi argomento tecnologico e non. Grazie mille, non sono antropologo, però ringrazio comunque Leo per questa cosa, per avermi invitato. E non lo so, potrebbe iniziare una rubrica con voi, anche in maniera molto simpatica. Guardiamo i film che a Leo piacciono, ma che sappiamo tutti che sono dei cessi mondi e ci facciamo delle discussioni di 2 ore e mezza sopra, che potrebbe diventare il contenuto del secolo. E questo ce lo diranno gli ascoltatori. Se vi piace questo format, fatecelo sapere. Nessuno è arrivato fino a questo punto, lo sai. No, ma non ce ne frega niente, andiamo a cazzo duro dritti fino alla fine. l'ultimo che salutiamo, ma come prima, come durante le presentazioni iniziali, non ultimo, Lobby Frontali, il nostro psicologo, psico qualsiasi cosa, che è venuto qui a moralizzarci tutti. Allora, innanzitutto io voglio essere ultimo. Poi moralizzare chi? Cioè, scusa, non sono mica un filosofo, non sono mica un giurista, cioè, anzi, spesso e volentieri la psicologia cerca di giustificare qualsiasi tipo di morale, per quanto possa essere ritenuta scabrosa. Ho giustificato i boomer prima, quindi voglio peggio di questo. Hai tu, io sei adattato. Esatto. È il suo Salernitano che esce fuori, raga, E quindi, signore e signori, grazie ancora tantissimo per averci ascoltato. Faccio gli ultimi annunci finali. Io non so quando uscirà questa puntata, quindi a coda di questo prodotto che avete ascoltato, naturalmente ci sarà una mini presentazione per il brano della settimana. Se, appunto, ripeto, di questo episodio sentirete la mini presentazione di questo nuovo brano della settimana. E non posso fare altro, appunto, che ringraziare di nuovo e invitarvi tutti quanti a seguire la grandissima distribuzione di Runtime, che sforna giornalmente, sforna nuovi contenuti molto interessanti dal lato tecnologico, nerd, geek e chi più ne ha chi più ne metta. Poi ovviamente ci sono io che, appunto, guardo le cose brutte e voglio commentarle assieme agli altri. Gli altri mi smontano, come giusto che sia, perché io in fondo è giusto che venga ogni tanto mazzolato da chi capisce più di me delle cose. Ma io sono felice così, perché la vita è bella soprattutto quando puoi condividerla con chi in fondo può insegnarti qualcosa di bello. E quindi, signore e signori, grazie ancora per aver ascoltato Morfeo, e noi ci sentiamo al prossimo episodio. E come detto poco fa, in questa parte finale andiamo a presentarvi il brano della settimana, e questo giro è toccato ai Cremisi, una metal band sinfonica italiana che dal 2016 ci racconta la storia e la cultura, e con il loro primo disco, Dawn of a New Era, si sono prodigati nel portarci in chiave rock un pezzo importantissimo della nostra penisola, un pezzo di storia importantissimo per la nostra penisola. Stiamo parlando del Rinascimento, e ce lo raccontano partendo dal Medioevo, dalla fine del Medioevo in poi. Il brano che ci hanno passato, che hanno voluto appunto concederci, è una versione orchestrale di uno dei pezzi di punta del disco, ossia Battle of Lepanto. Quindi non vi resta che rimanere qui a ascoltare questo pezzo, per poi andarvi a cercare il resto sulla loro pagina di Spotify oppure sul loro canale YouTube ufficiale. Naturalmente tutti i link li trovate in descrizione. Grazie ancora per avermi ascoltato, e niente, godetevi lo spettacolo. Ciao! Thank you.